ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su aruba.it. Dimmi Mario, dimmi! Allora ce l'ho con te, Crociani. Sì, parla bene, togli viva voce, l'auricolare, il Bluetooth, i fili del cazzo, quello che ha. Non posso farlo, non posso. Ma se non puoi fare, allora vai a fare in culo e non chiamare, scusa. Ma vai a fare in culo tu, ma non chiamare, imbecille! Se hai il telefono così, non chiamare, non chiamare, non chiamare, se hai il telefono così, non chiamare, imbecille! Ma perché si litiga sempre questa trasmissione? Ma perché tutto viene trasformato in una rissa? Perché? Ma scusa, ma chiama col telefono così, bisogna, sta testa di cazzo. È una trasmissione incredibile, tutti che urlano. Ma perché? La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Per me coronavirus non è vero, e questa è una cosa politica di guerra, perché non sono messo d'accordo, e fino a quando non si mettono d'accordo con i soldini, mettiamo la mascherina, così dicono c'è il virus vero. Un virus vero non denota la testa, Conti, che deve andare a casa, che è pieno di soldi, sempre soldi, politici di fuori Italia, non avete visto che hanno messo la bomba atomica? Mazzare gente umana, poverini, che se ne vanno tutti a casa! Capito? Il coronavirus, ma cos'è sto coronavirus? Signor Giuseppe Conte, lei sta governando con la paura. Anche oggi dovrei stare 3, 4, 5 ore davanti alle mie telecamere per informarvi. Tante sono le notizie in mio possesso. Si preoccupano del coronavirus! C'è Parenzo che ti considera sostanzialmente un criminale. Cioè sostanzialmente no, lui è un criminale ed è un uomo senza dignità. Ma chi è Bacco? Chi è? Posso sapere chi è? Pasquale dignità, Mario Parenzo. Bacco è un medico. Cazzo è? Ditemi chi è. Chi è sto Bacco? Chi Parenzo, è? Io sono un medico legale, sono uno dei primi che ha avuto il coraggio di fare le autopsie, mettendosi contro l'ordine dei medici. Ah, sei quello che è andato in piazza con i no-mask. Anche sì, sì. Parenzo, quello che è mancato in questa crisi sono proprio i medici, i miei colleghi. E siamo ancora in tempo a scendere in piazza. Quelli sono morti all'ospedale. Non è morto nessuno all'ospedale. Non raccontiamo non è morto nessuno. Nessuno dei tuoi colleghi è morto per il Covid. Cretino che non sei altro. Hai appena detto che non sono morti medici per il Covid. 178 medici morti in Italia. 178 perché curavano degli stronzi come te. Curavano degli stronzi indegni come te. Parenzo, stronzi indegni come te, morti per religione. Il Covid, 178, brutto infame, avresti cacciato a pedate del culo Parenzo, dall'ordine dei medici. Parenzo, devi chiamare il presidente dell'ordine dei medici. Ma ti devono cacciare a pedate del culo dall'ordine dei medici. Ma io manco da morto mi farei fare un'autopsia da te. Neppure da morto proprio. Neanche da morto mi farei toccare da un mortaccione come te. Tu fai una trasmissione. Perché indichi sempre gli stessi? Perché quelli sono autorevoli a differenza tua. Perché sono autorevoli a differenza tua. Io non inviterei mai un merdaccione come te. Mai uno straccione come te. Mai lo inviterei. Non hai nessuna autorevolezza tu. No, perché non sei autorevole. Io non ti metterei mai a confronto con un medico serio, perché vorrebbe dire darti dignità. Avanti tutta ragazzi, il qui presente David Parenzo ripeto, in questo momento è in Piazza Indipendenza. In Piazza Indipendenza 23C. Ma non gliene frega niente a nessuno. No, no, 23C, assolutamente, no, 23, 20, 20, accanto 15, a che banca, 15. Signori negazionisti, signori negazionisti, in questo momento si trova in Piazza Dell'Indipendenza. Ma no, sono da casa, trasmetto da casa. In Piazza Dell'Indipendenza. Applausi, Davide Parenzi in collegamento da Roma. Vuoi far linciare. Chiedo scusa al pubblico per ieri sera. Scusa, perché la gente è estasiata. La gente è estasiata per questo sconto. Non avrei dovuto dare del coglione a un coglione. Non avrei dovuto, ho esagerato. E quindi chiedo veramente scusa. Perché risentirlo è ancora. Perché io veramente. Perché mi fai proprio uscire dai gangheri? Ma perché? Senti Fusaro di oggi. È un vero e proprio regime. Non lo so, senti. Ma perché lo invitano ancora, Fusaro? Anche alla 7 lo invitano spesso. Fatti una domanda e datti anche una risposta. Ma lo invitano, certo, perché è un personaggio simpatico, certo, giusto. È gravissimo, inaudito quello che sta accadendo in Italia. Sì, siamo a tutti gli effetti nel bel mezzo di una ristrutturazione autoritaria del capitalismo, che sta assumendo una forma di vero e proprio regime. Lo faccio per farti crescere. C'è una pandemia. Quale capitalismo? Ma non è il capitalismo, c'è la pandemia, brutto scemo che non sei altro. Vedi che ti monta, capitalismo che ti monta ma la sì, rabbia. Ma perché uno dice una stronzata? Senti, ma vedi il capitalismo? Tu lo inviti a quest'altra cena, cosa dici scusa cosa vuoi mangiare? No, qui c'è il problema del capitalismo. Ti ho detto che cazzo vuoi mangiare? Vieni a cena da me, tipo vuoi dire, ti ho preparato una bistecca alla milanese. No, il problema altresì è il capitalismo. Ma vaffanculo allora! Ma cosa pazzesca! Senti, sta roba. Capitalismo che... dappertutto. Senti, quello roba... ti mette il capitalismo. Sì, è vero. La moglie dice: senti, stasera facciamo l'amore. No, perché non vorrei veramente entrare dentro questa cosa, perché c'è il problema dello sfruttamento. Quale sfruttamento? Lo facciamo. Quale sfruttamento? Che problema c'è? Questa cosa ti fa andare in bestia. Senti questa incredibile. Ripeto, gli incaricati della pubblica autorità potranno in qualsiasi momento chiedere l'accesso e procedere all'identificazione dei soggetti presenti nell'immobile. Ma non è un regime, figuriamoci, non è una svolta autoritaria. Quando mai? Hanno con oggi introdotto anche la Gestapo, che può entrarvi d'imperio in casa. Cioè loro possono d'ora innanzi entrarvi in casa, piombare nelle vostre case private per fare controlli e verificare quante persone, quali persone avete in casa. La Gestapo, ma cosa... La Gestapo ha detto lo chiami filosofo? La Gestapo, ma è un pirla. Sì. La Gestapo era una cosa drammatica, serissima. Commettevano dei crimini. Qui c'è un capo dello Stato, Mattarella, un Parlamento eletto. Di che parla questo squinternato? Di che parla? Senti. E ride l'altro, non dice niente. E lo accarezza, ma incredibile. Sto già male alle 18.41, pensa a te. Sto già male, non arrivo alle 20.50, sto già male. Sembra davvero il regime di Franco in Spagna o di Salazar in Portogallo. È il regime a tutti gli effetti questo. È una palese violazione dell'articolo 14 della Costituzione italiana, che recita, leggo: il domicilio è inviolabile, non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri se non nei casi e modi stabiliti dalla legge, secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Qualcuno ha ancora dei dubbi che siamo all'interno di un regime? La violazione del domicilio è gravissima, è l'aspetto più grave probabilmente di quelli finora introdotti. Però posso dirti la verità, adesso non sarà così, perché Conte dice la polizia non andrà nelle case. Però effettivamente c'è una raccomandazione sulle feste, eccetera. Però se ti dicono di stare non più di 6, il vicino di casa dice: beh, qui ci sono 10 persone, fa una segnalazione, arriva la polizia e la polizia, grazie a queste norme qui, può entrare dentro casa tua. Un po' c'è da preoccuparsi. Arriva magari il vigile urbano, come già arriva se vai troppo casino. Se fai troppo casino, già oggi dai, i vigili io quando ero ragazzino facevo delle festine a casa a Padova e una volta sono arrivati i vigili, ad esempio, ma perché no, facevo troppo casino. In questo caso non arriverebbero hanno per il casino, dai, chiamati dai vicini. I vicini hanno detto: che succede, che ha fatto Parenzo? Io avevo 15 anni, ci ho fatto una festicciola e sono arrivati i vigili. Vabbè, è successo. Conte in casa non più di 6 e non parti. Ora posso dirti la verità adesso, che il presidente del consiglio, vabbè, in maniera un po' paternalistica, ci debba dire sì, che in casa uno non può stare più di 6. Ma noi siamo già in 6 e non devi fare io il party. Già in 6, c'ho 4 figli e non puoi invitare nessuno. Non puoi invitare nessuno, non puoi invitare nessuno. Oltre appunto, le cose, non potresti invitare nessuno secondo questo criterio. Secondo Conte, prenditela con Conte, non puoi fare più una cena delle tue, le solite cene ricchissime. Le solite cene ricchissime, non le faccio più, ovviamente, non le faccio più. E vi invitiamo a limitare anche il numero di ospiti, non superiori a 6. Perché assolutamente poi vi invitiamo a non avere, a non svolgere, consentire lo svolgimento di feste di party nelle abitazioni private. Ma scusa, ma perché uno non può fare una festa a casa sua? Perché non può fare una festa a casa sua? Dai, se uno ad esempio ha una casa molto molto grande, forse. Ma perché uno non può fare una festa? Tu lo farei, inviteresti 4-5 persone oggi? No, 4-5 persone. Oggi è tanto che non invito più nessuno quest'estate. Per paura, perché cosa? Non invito più nessuno da tanto tempo, purtroppo. Hai un terrazzo enorme. Non è enorme, ma lo stesso non invito più nessuno da tanto tempo. Certo, oh, ho invitato Montesano te e non hai portato neanche un dolce. Vero, e ho dovuto vero pagare tutto di tasca mia. Montesano a un certo punto è stato beccato, era un convegno, non so dove, è stato beccato fuori senza mascherina, ha detto: ah, non riesco a respirare, me la metto, altrimenti è sequestro di persona. Poi dice, come al tempo del fascismo, guardano chi frequenti. Addirittura facciamo di nuovo il capo palazzo. Mi ricorda un po', io l'ho studiato perché sono curioso, ho letto un po' di cose della storia, di storici, e accadeva durante il tempo del fascismo. Guarda che quello non è andato al raduno, quello frequenta gente che è vicina ai socialisti, insomma non è bello. La delazione, questo però è gravissimo. Quello che ha detto Speranza l'altro giorno: aspettiamo segnalazioni. Poi l'hanno fatta diventare una raccomandazione. Conte dice: beh, non manderemo la polizia. A parte che non è che lui che decide di mandare la polizia, cioè casomai è il capo della polizia o il prefetto della zona. Non è che Conte decide di mandare la polizia, per cui di che stiamo parlando? Non è che la polizia, cioè non è che è il capo della polizia Conte, sono tutte follie. Cioè, non manderemo la polizia. Già il fatto di pensare di mandare la polizia, non è mica lui che decide se mandare la polizia ma o no, no quello certo e che allora no. Di che stiamo parlando? E intanto Pappalardo dice: il nuovo ordine mondiale con me trema, ti giuro, l'ha detto. Il nuovo ordine mondiale, dalla Tunisia il generale Pappalardo dice: il nuovo ordine mondiale con me trema. Sì, certo. La politica completamente collusa con la mafia, con le varie organizzazioni comunali, allora, con le lobby di potere, con il nuovo ordine mondiale. Mi sono trovato a scontrarmi con una realtà che prima non conoscevo. Da presidente del COCE ho fatto vedere i sorci verdi al potere. Glielo ho fatto di tutti i colori. Hanno cominciato a tremare. Ma chi è? Non trema nessuno, nessuno non trema. Trema nessuno. Massimo ride, la gente trema perché ride. Cioè noi ridiamo e dunque molto, nessuno trema davanti a Tremano i reparti di psichiatria perché ti devono accogliere, quelli tremano sicuramente. Quelli tremano, certo. Intanto c'è stato il grande ritorno di Spatalino, avete sentito? Ma cos'è sto coronavirus? Ecco, permettete a cani e porci di entrare in Italia. Ancora questa storia. Ma come può un governo tenere sotto controllo i suoi cittadini, un comportamento vessatorio, e poi consente a cani e porci, a sacchetti a perdere, di entrare in Italia? Ma vi sembra giusto? Ma voi mi censurate? Ma vi rendete conto? Io non riesco a parlare per la rabbia che ho in corpo. Io la mascherina non la porto. Qualcuno mi fa notare: niente più gangbang, niente più orge. Beh, ragazzi, la gente se ne fotterà, la gente se ne sbatterà i coglioni. Chi vuole fare un'orgia, come abbiamo dimostrato ieri sera, ci saranno 7-8 persone a Milano in un posto sabato prossimo al servizio di una donna, a disposizione di una donna. Le cose si faranno lo stesso, perché la gente vuole vivere, vuole campare. Effettivamente non vuole nemmeno arrivare in terapia intensiva, d'accordo, però la gente vuole vivere, a casa. Tu vuoi vivere blindato, no, vuoi assolutamente vivere blindato, io vivo vuoi di vivere relazioni, come un topo, ma quale topo, io vivo di relazioni, di amicizie, di cene, di cose. Ma ovvio, sto alle regole perché sono, voglio tutelare i miei cari, i miei familiari, i miei anziani, i nostri anziani. Uno Stato forte, aggressivo, crudele con i suoi sudditi cittadini contribuenti. Mamma mia. È uno Stato poi debole, latitante con gli stranieri per la politica del quieto vivere, che non possono intervenire, non si può far niente. Quindi noi chiusi in casa, noi se usciamo non possiamo camminare, devi stare attento. Io non la porto la mattina, non sono in città, io la mascherina non la porto, cammino senza mascherina. Dove sta il podcast? Dove cazzo sta il podcast? Alle 4 di pomeriggio? Dove sta il podcast? La Zanzara. Zanzarosi, visto che siete ancora qui, fatevi sentire. Chiamate l'824 0024 o whatsappate il 393 7171 701. Non negateci un po' di sano qualunquismo. Pezzi di merda, ma siete proprio dei rotti in culo. Sono le 16 e ancora non è stato caricato il podcast. Giusto, ma che cazzo lo pago a fare Spotify? Mortacci vostra, il podcast di ieri, in do cazzo sta, li mortacci vostra. Porca di quella puttana, mi potete dire perché avete tolto le dirette YouTube? Mi sono fatto YouTube Premium ormai da tempo per saltare la pubblicità, fare pausa, tornare indietro, partire ad ascoltarla anche mezz'ora dopo. Queste cose non si possono fare in un'applicazione. Perché non le fate, porca di quella puttana? L'applicazione di Radio 24 fa schifo, andate a fare in culo. Grazie. Donato, Donato, Donato, la borsa nel podcast, Donato, due volte, Donato, la borsa nel podcast. Ma perché si lamentano tutti? No, questi è messaggi. Ovvio che c'è la pubblicità, fermo, di cosa fermo, viviamo fermo, noi? No, questi messaggi sono un po' per fatto personale, cioè personale nostro della Zanzara. Sì, però certo, ragazzi, c'è un messaggio molto semplice da dare, molto chiaro, molto evidente. E io sono incazzato come una bestia, adesso non interessa a nessuno, il grande pubblico, quelli che scaricano il podcast sicuramente però sono interessati. È una vergogna che da giorni ci siano dei malfunzionamenti, che il podcast arriva con grande ritardo e che le dirette YouTube saltano. Tu chiedi spiegazioni, ti spiegano, c'è quello, stanno facendo questo, stanno provando quell'altro, c'è un problema con questo. L'unica cosa da fare, suggerisco ai gentili, come dire, utenti di questa emissione radiofonica, è scrivere una piccola mail, internet@radio24.it, con due semplici parole: andate a fare il culo. No, molto semplice. Quando è così, se uno viene poi sommerso da andate a fare in culo, ridatemi il podcast, aggiungo, ridatemi il podcast, non solo una cosa negativa ma una in positivo, la prima cosa è andate a fare in culo, ma virgola, perché? Ridatemi il podcast, internet@radio24.it. ma uno che deve fare secondo te nel 2020 per avere dopo minuti due un podcast a disposizione? Cosa deve fare? Prendere a pedate nel culo chi è responsabile di questo malfunzionamento. A casa mia funziona così, a casa tua come funziona? Se la tua donna di servizio, caro David, se la tua di servizio a tavola, servizio, sì, tu ce l'hai fissa, no, se no, ti no, porta no, a tavola per tre giorni nostra, di seguito, è una tata, per tre, non è una donna, vabbè, quello che è donna tata, cazzo, se per tre giorni di seguito ti porta a casa, ti porta quello che è super tata, donna di servizio, chiamala, chiamala come vuoi, e appunto parte della famiglia. Ma adesso non la edulcorare così, a me mi sta sui coglioni questa roba qui. Devi edulcorare il fatto che sia una donna, hai una donna di servizio fissa a casa, non si chiama così, come nell'Alabama degli anni 50. Ma vaffanculo, ma non è una, è allora una, come nell'Alabama degli anni 50, se ti porta se ti porta per tre giorni di seguito, io ti assicuro, l'ho conosciuta pure la sua, ti querelo, hai pure io una sostituta in questo periodo, una sostituta, non c'è una sostituta, è tornata la titolare. No, ma voglio dire, io ti querelo, se per tre giorni di seguito, se per tre giorni di seguito ti porta un piatto, un piatto bruciato, non lo fa, ma non lo fa, se procura danni alla tua bambina appena nata, non procura, che cazzo fai, non la prendi a pedate nel culo, dillo. Non prendo a pedate nessuno, sì, ma dai, non procura, aiutami, da, la prenderebbe a pedate nel culo, giustamente, dai. Non fa nulla di tutto questo e io ti denuncio, io mi sono stufato, ti querelo con gli avvocati avvocati della radio, peraltro. Uso gli avvocati della radio e ti querello. Sgarbi, andrete all'inferno. Intanto si candida, come sappiamo, a sindaco di Roma. Una cosa meravigliosa, vuole abolire l'autovelox, cose pazzesche. Noi siamo i suoi grandi sostenitori. Comunque la si pensi su Sgarbi, ci sarà molto probabilmente una lista, la zanzara per Sgarbi. Sempre che non cadi le braghe alla fine, però, eh. Onorevole Presidente, il relatore del gruppo 5 Stelle ha parlato di un paradiso che corrisponde all'applauso per 4 milioni e mezzo di italiani che hanno perso il lavoro durante il tempo delle misure grottesche di sicurezza, sì, mentre l'economia in Svezia è andata avanti. Non siamo più in Europa, ci sarà un giudizio universale per farvi pagare la fine del lavoro usando la morte che non c'è. Le curve non parlano di contagi, ma parlano di morti arrivati a zero, e continuate a usare i morti per fare retorica. Andrete all'inferno, il giudizio universale ci sarà per condannarvi per quello che avete fatto. All'inferno andrete, all'inferno, all'inferno, all'inferno, all'inferno, all'inferno, all'inferno, anche lei, anche lei. È un genio, ragazzi. Ma magari fosse sindaco di Roma. Musei gratis. Inizio scuola alle ore 10, a proposto. La scuola alle ore 10. Ma via multe degli autovelox. L'autovelox è uno schifo. Ci vuole fare pure assessori. Ma ragazzi, ma appoggiatemi sto Sgarbi sindaco, dai, non su. Posso. Io comunque la cosa incredibile è che hai una mami a casa. Hai una mamma come l'Alabama degli anni 50, ragazzi. Questa è la realtà. Questa è la realtà. E lei vuoi edulcorare, fa parte della famiglia. Ma vaffanculo, va. Francesco da Milano. Ma che vuol dire? Sempre una schiava, dai, ho detto con tutto il rispetto. Come l'Alabama degli anni 50. Dici? Ho visto come la trattate, Francesco da Milano. Ma vergognati, ma Francesca, come ti permetti? Ma non diciamo stronzate. Buonasera Giuseppe, buonasera ai radioascoltatori. Ma quale buonasera, quale radioascoltatori? È una trasmissione di merda questa. Dove è una trasmissione orribile. Non la devi ascoltare. Via, basta. Dimmi Francesco, dimmi. Dice delle infamità. E mi lasci dire che in merito a un provvedimento del ministro della salute Roberto Speranza, io non sono un negazionista, ma a casa mia le feste private le ho sempre organizzate, ma e continuerò ad organizzare. Non ci viene nessuno a casa tua, ma non ci viene nessuno a casa tua, nessuno, è inutile che fai il disobbediente. Tu sicuramente no, perché io gli sfigati non li invito. Lasciatemi dire che è casa mia, Roberto, è casa mia. Speranza, riformuliamo il detto: non è che c'è vita, c'è speranza. Ma finché c'è speranza non c'è vita. Su, Francesco, è. Però al di là di questo, dai, fai una grande delazione. Organizzerò una festa privata, dai nome, cognome, indirizzo e tutto, e così fai una grande confessione, alzi le mani, venitemi a prendere. Che ti devo dire? Ma venitemi no, a prendere. Cognome non c'è, l'indirizzo non c'è. Sono Francesco da Milano, saremo 100.000 Francesco, non mi chiameranno mai. Cioè tu stai dicendo vuoi organizzare al più presto, se già non l'hai organizzato, una festa privata con più di 6 persone a casa tua. Questo è quello che dici. Allora, sì, ma io non sono un negazionista, il Covid è pericoloso. Sì, non però la vuoi organizzare lo stesso, mi sembra, sì, andando contro le prescrizioni del governo. Sì, ma non ne inviterò 200 o 300, sto parlando di 20-30 persone. 20-30, vabbè, uguale, più di 6 c'è. Ha un consiglio di non farlo. Per poterlo fare? E si assume la responsabilità, poi se parte un contaggio da casa sua sapremo. Fermi il tutti, cluster, ragazzi. Sì. Fermi tutti, fermi tutti. La zanzara. Ma tu, se volete parlare al telefono con la zanzara, da fallotto 0024 0024, oppure se volete mandare uno sfaccio i messaggi, coppa WhatsApp 393 71 71 701. Salon David, tu dovresti essere il paladino dell'internazionalità. Ieri avevi un maglione fashionable, non facconable. Per cortesia, almeno in francese, visto che sei un uomo di mondo, di sinistra internazionale, mega mega international businessman, multilingual, multicultural, fuck off. Si dice fashionable, non facconable. Il maglioncino comprato a New York. Ciao ciao. Prezzo. Quel bacco lì ti ha spaccato proprio le chiappe, comunque. Che hai voglia che strillavi e non lo facevi parlare. Amico mio, porta la cartella clinica. De uno sano morto de Covid. Portala, portala, devi portare. David, il tuo litigio, il tuo scontro. Vuoi la cartella medica? Sì. Vuoi la cartella medica? Leggi. Ci ha scritto oggi: buongiorno, in vista della diretta odierna della Zanzara, vuoi far giungere a Parenzo un messaggio di solidarietà per la posizione assunta nei confronti di quel sedicente medico negazionista che porta il nome di Pasquale Maria Bacco. Mio fratello, scrive Fabio da Milano, mio fratello è mancato il 19 marzo scorso al Policlinico di Milano a causa di una polmonite tanto aggressiva quanto incurabile dopo appena 5 giorni di ricovero in terapia intensiva. La cartella clinica riporta espressamente che il decesso è stato originato dal virus denominato Covid-19. Forse quel signore negazionista, che io aggiungo, imbecille pezzo di merda, ma lo dico io, non ha mai visto una cartella clinica in vita sua, né ha titolo per consultare quella di mio fratello, poiché il contagio si sta propagando in modo piuttosto serio e incontrovertibile. Verrebbe da augurarsi che prima o poi si presenti anche a casa di coloro che ne negano l'esistenza e la virulenza. Grazie, Fabio da Milano. A questo punto mi aspetto che tu recapiti questo messaggio al tuo amico Maria Bacco, al tuo amico Maria Bacco, e che il signor Bacco si dimetta illico ac immediato dall'ordine dei medici. Sì, sì. Capito? Che dici, Richard? Scusa, che hai detto? Capito? Sì, ho capito, Richard. Comunque dicevo che il tuo scontro con il tuo scontro con Pasquale Maria Bacco è diventato virale. Dunque non ti pentire di quello che fai, non stare lì a piangere, oddio la Zanzara, ho esagerato, ho fatto, ho detto, eccetera. Perché siamo tutti nella merda. Una volta che hai messo le mani nella merda, caro Davide, è inutile che poi te le vuoi, no, vuoi pulirti dagli schizzi. Ma sei tu, è colpa perché tua. Vuoi pulirti sei dagli tu, schizzi mi trascini in queste discussioni assurde, violente, grottesche, paradosse. Sei tu, è colpa tua. Comunque ragazzi, dicono della mascherina, no? Dicono della mascherina. Ora, lo sapete voi che mettete... Io ogni tanto lo faccio, per carità, non sono esente da questo, non mi salvo. Voi che mettete la mascherina di stoffa, una semplice mascherina di stoffa, lo sapete che ogni giorno andrete... Poi dice, uno insiste sulle mascherine, portate le mascherine, ma l'80% di quelle che vedo in giro non servono a un cazzo, non lo dico io, lo leggo. La maggior parte di quelle di stoffa, anzi tutte quelle di stoffa, andrebbero lavate ogni cazzo di giorno. Ogni giorno ad alte temperature. Quelle che a Parenzo, per esempio, sono sempre false, finte, ormai inutili. Quale? Inutili totalmente quelle che usi tu di stoffa. Inutili. Dunque, non devono dire uno porta la mascherina, ma dipende quali mascherine poi. Dipende quali, per quanto tempo. È impossibile controllare tutto. È impossibile. Non siamo nella Germania Est, che piace a te, nella Germania Orientale. Ma scusa, a te piace quel regime lì, non piace con la polizia. Sono libertario. Vero. Eccetera, sì. Ma quale regime? Io dico, c'è una pandemia globale, si chiama pandemia globale, ed è globale. Senti ed che è globale. Banalità, cioè, sai dire solo questo. No, e non sui so mezzi dire questo. Pubblici, governi e sui mezzi pubblici, i governi democratici stanno prendendo le misure precauzionali per salvarci la vita e salvare le vite. Ora, se qualche imbecille gioca a organizzare le feste, fare assembramenti, non mettersi la mascherina, diffondere che informazioni, propalare, però come fai tu che sei un propalatore, sì, di false notizie? No, propalatore, propalatore. Vai sul dizionario, propalatore, sei un propalatore di puttanate in generale, e generi confusione. Questo fai. Franco da Milano, vai. Sgarbi sindaco. Appoggiare tutta la candidatura. Diglielo in faccia. Franco, dimmi. Pronto. Roba incredibile. Senti. Abbiamo le parentele, abbiamo la gente, no, sì, la gente, candidata a Roma, conflitti di interesse spaventosi. Mio cognato diciamola, è candidato per il PD. Ma non c'è. Candidato sindaco per il PD. Il fratello della moglie. Ma cosa c'è? Del PD, Partito Democratico. Ma non è del PD, come indipendente, non è una cosca, dici, non è una cosca. Lo dicendo, come dire, ma è Casa Monica, ma no, Franco, Tobi Azevi candidato, Franco, dimmi, Franco, dimmi. Dai, mi senti? Dai che funziona in diretta il cognato, dai che funziona, il conflitto. Franco, vabbè, dimmi, basta, dai, ascoltami. Ma sai che mi sembra, mi vergogno di aver avuto 7 figli. Tu hai avuto tre compleanni in ottobre, tre compleanni. Sì. Il mio è giovedì. Domenica siamo tutti a Como a casa di un mio figlio. Ma che cacchio faccio se quel cretino vicino di casa per caso chiama i vigili? Lo mandi a fare in culo. Lasciamo casa, moglie, fidanzate, tutti. Lo mandi a fare in culo. Lo mandi serenamente, decisamente a fare in culo e ti opponi in maniera radicale. Ma radicale. Sei poliziotti, ragazzi, io invito tutti a fare in culo. Sei poliziotti, vengono dentro casa vostra perché state facendo una festa, dovete fare come Pannella. Incatenatevi davanti alla porta. Ma Pannella non lo farebbe mai oggi. Incatenatevi nudi davanti alla porta. Ma non lo farebbe mai Pannella. Non lo farebbe mai una cazzata simile. Mio figlio ha compiuto 6 anni il 29 settembre. Fai sentire Franco. Non ho fatto la festina. Ha avuto 7 figli, Franco. 7, 3 più di te. 3 più di te. Sono tutti sani. E sono sani, tutti sani e vegeti. Allora? E non abbiamo mai avuto un problema. Cosa faccio? Lascio a casa moglie, fidanzati, lascio a casa tutti? No, li mandi a fare in culo. Mandi a fare in culo e stracci queste robe qui. Quella è una raccomandazione. Quella è una raccomandazione. Poi, se qualcuno ti viene a rompere i coglioni, vai dal vicino e fai qualche scherzetto che si fanno di solito ai vicini. Lasci un po' di merda davanti alla porta. Questa roba. Ma cioè, bellissimo, scherzetto di un sacchetto di merda davanti alla porta del vicino. Una volta l'ho fatto anni fa, io quando ero ragazzino, un sacchetto di merda davanti alla porta, uno che mi rompeva i coglioni per ogni cosa. Ho lasciato un sacchetto di merda. Mamma, ma roba mafiosa, a sfregio, ma che mentalità. Lorenzo, scusa Franco, come hai fatto? Sì, qui non si usa la testa. Quanti, come mai hai fatto 7 figli, cazzo? 7 figli? Perché sono venuti 85, 87, 89, 4 maschi. Mia moglie voleva una femmina. Dopo 4 maschi ho fatto 3 femmine. Hai capito? E che dobbiamo fare? Lorenzo da Brescia. Come hai fatto? Andiamo, bravo, a festeggiare tutti a Como. Ma a mantenerli tutti, come hai fatto? Ragazzo, ho lavorato 20 ore su 24 ogni tanto. Chi è che ti sta che più sui coglioni in questo momento a te, nella politica, nella comunicazione? Chi è che ti sta più sul cazzo? Quello che quando vedi, quando vedi la televisione dici guarda, questo qua mi sta su, magari anch'io. Ma ormai tutti fanno solo parole. Io ho chiesto, non sono in cassa integrazione perché è un lavoro mio, ok? Ma fammi capire, ma tutto questo benedetti dopo i primi 600 euro di marzo, ma chi ha mai fai più sapere visto a Del una lira? Fai sapere a Del Debbio, manda una mail a Del Debbio. Lorenzo, ma io qua non me ne occupo. Posta, ma non me Debbio, ne occupo io di 600 euro, ragazzi, ma che cazzo me ne frega? Sono invita subito Lorenzo da Brescia, dimmi. Buonasera, dimmi, ragazzi. Dimmi, allora, dimmi. Siamo per dirvi che me ne fotto altamente di quello che dice il ministro della Salute Speranza, me ne frego di quello che dice Conte e... Sabato sera organizzerò una festa privata in casa mia con tutte una ventina di persone. Quante persone? Una ventina di persone. Questo vuole fare una festa con 20 persone. Gente che fino a ieri non aveva un amico che sia uno. Ragazzi, gente che non ha mai avuto un amico mia. Che adesso improvvisamente fa le feste. Ma pazzesco, no? Allora, Parenzo, non hai mai avuto un amico che sia uno. Nessuno ti caga e adesso improvvisamente ti svegli. Quanti anni hai? 23 anni, ma ti dico, Parenzo, tu potresti avere perfettamente ragione. Ma io questa festa l'organizzo anche e soprattutto. Ma questi poi vogliono trombare, questi qua vogliono. Ma questi vogliono. Sì, giusto, bravo, hai fatto bene. Lorenzo ti sta mettendo un piccolo tassello, un piccolo pezzetto. Ma io devo condurre questa. Allora, il punto è molto semplice, caro David. Eccolo qua. Devo guardate condurre come vi imbrogliano i populisti sovranisti. Ma che ascoltate che come vi imbrogliano le destre. No, ascoltate come vi imbrogliano tu. Guarda, io come sto dicendo. Ascoltate. No, scusate, siccome no. Lui deve condurre, certo. Deve salvaguardarsi. Io l'unica cosa di cui mi se preoccupo non è. Non face... Eccolo certo. Qua. Avete visto le destre? Questo è il esempio. Forse di populismo. Se io mi prendo questo cazzo di coronavirus, probabilmente devo stare a casa e non mi fanno neanche condurre perché le regole assurde. Come tanti cittadini italiani. Ma non ci voglio stare esattamente, a casa, voglio stare esattamente. Qui a condurre sul fronte. E allora perché dai consiglio agli altri? Io non do di nessun fare consiglio. No, libertà, l'incidi Lorenzo da Brescia, feste, 23 perché? Anni, 23 anni. Non mi vuole... avessero detto nulla, se non mi avessero detto esatto, nulla. Esatto, principio molto semplice. Non l'avrei neanche fatta la festa, ma se questi qua mi dicono che non la posso fare, io la faccio. Ma certo, questo è interessante però, ti sta dicendo una cosa interessante. Ragazzi, a casa mia vige la mia legge, non vige la legge dello Stato, è la Repubblica di Lorenzo. Se ammazzi qualcuno non penso che sia la tua legge. Ovviamente, perché ovviamente, allora Lorenzo il punto è molto rischi semplice. Rischi di ammazzare qualcuno se ma vai in giro e sei cazzate, positivo asintomatico, dai, bravo? Non rischi di ammazzare nessuno se sei positivo asintomatico. Il papà non di Totti, stai il papà, del il papà pupone, di Totti che c'entra? Papà di Totti, è morto di Covid, poverino, no, ad esempio. Ma sei una vergogna magari ancora. Magari avrebbe vissuto ancora per qualche anno. Non lo sa nessuno di cosa è morto. Non lo sa nessuno di cosa è morto. Purtroppo, poverino, si è preso il Covid. Che vergogna, guarda, che vergogna. Bruno da Roma, dai. Bruno, quella che voi chiamate una banale buongiorno influenza. Bruno, dimmi. Sì, no, buonasera, no, volevo dire solamente che mi è partita la tredicesima con queste mascherine. Allora chi se ne frega? Poveretto, questo è un tema, certo. Ma chi se ne frega che ti è partita la tredicesima? A me ne frega perché io prendo 600 euro al mese. Ho capito, ma noi che il fatto che tu devi comprare. Rivolgiti al governo, no? Invece di rompere il cazzo qui. Scusa tanto, sta trasmissione, che la fai a fare? A che serve? C'hai ragione, a niente purtroppo. Per rompere i coglioni a te. Per rompere i coglioni a te. Ripeti un po'. Scusami, Bruno. Ma scusa Bruno, un attimo. A parte che non ci credo. Ma non ci credi di che? Fatti i conti. 4 mascherine al giorno, 50 centesimi. Sono 700 euro a fine anno, va bene? Ma a fine anno. Sì, è una tredicesima. Sono tutti rimborsabili, ignorante. Me da te maschere non stanno rimborsabili. Vai. Io sono una farmacia a comprarle. In farmacia ti lascio uno scontrino e poi te le possono rimborsare. No, non è vero. Anzi, ti dirò un'altra cosa. Mia nipote a scuola ha dato le mascherine. La realtà è che tu l'ho buttata d'accesso. E perché l'hai buttata d'accesso? Puzzano. Puzzano di merda, di gas, che ne so, puzzano. Puzzano, capito? Sì, puzzano. L'ho buttata d'accesso, sì. Ma perché? Dici che vuoi risparmiare. Dici che vuoi risparmiare e poi butti la roba al cesso, ma non ti vergogni? No, puzzano. Non si possono mettere, ma vergognati di mettere di buttare le mascherine. Ma vergogna a te, senti le notizie serie che ti dico di questo signore. Io so mio padre che era c'è morto col comunismo. Ancora, ma questi parlano, scusa un attimo, questi parlano sono di sinistra, si devono lavare la bocca, devono sciacquare la bocca, perché questi sono peggio dei democristiani. Il signor Zingaretti, lo vuoi sapere ma una? Ma che c'entra Zingaretti? Stai passando da un discorso a Zingaretti, che c'entra Zingaretti adesso? Ma cosa ti dico che c'entra Zingaretti? Perché lui da qua ha detto lui, mie mascherine anche all'aperto, che sta società con qualche uno che fabbrica, non so, vabbè. Ma società con chi? Rincoglionito. Sei un vecchio rincoglionito. Questo è un stronzo, sei un testa di cazzo. Non puoi parlare, magari io ti faccio un bucio di culo così come pensiero, come esperienza, stronzo. Aspetta, tu sei stato pure sicuramente per la galera, sì, per la galera sicuro. Ma quale galera ci va in galera? Sei del deficiente. Un po' di galera l'avrei fatta, ma sai che cazzo ne fa opinionista, ci chiamano pure, capisci in cazzo. Un po' di galera l'hai fatta sicuro, però non è un dramma. Io l'ho fatta sicuro, ma che cazzo te ne frega a te? Lo vedi che l'hai fatta un po' di galera? Lo vedi? Senti, io so per te, ma in discorso serio, se ti tocca parlare, no? Di che? Mo te dico, io vuoi parlare di sesso con me? Che vuoi esperienza? Fermo un attimo, Bruno da Roma, fermo, la resta lì, Bruno. La Zanzara. Io sono sempre più convinto che la signorina Martani si sia presa una bella cotta per Cruciani e che alla sera, nella solitudine del suo letto, in preda a un'astinenza sessuale, stuzzichi il suo appetito con una bella zucchina, guardando in copertina il culo flaccido di Cruciani. Comunque io una scoreggia della squinternata della Martani la olferei e come... Allora, nei giorni scorsi c'è una notizia che mi ha colpito. Beh, ragazzi, gente che chiama, posso dirti che se una, diciamo, del pari livello della Martani, una bella ragazza, una persona che mi piace, ecco, in generale, mi scorreggiasse in faccia, a me non dispiacerebbe come ma cosa. Ma lo so, ma è tutto normale per voi, ma che cosa vuoi che ti dica? Fate quello che volete. No, allora, tu mi vorresti dire adesso, detto sinceramente, Davide, la risposta è no. Con grande sincerità, non è tra le mie prelibatezze, con tutto l'affetto che posso dire nei confronti della tua compagna, che per carità, mi vorrai far credere che una volta dentro il letto, dentro il talamo nuziale, che poi non è nuziale, non hai mai scorreggiato davanti a lei? Mi alzo e vado in bagno. Altrimenti, se mi dovesse capitare, dai, incredibile. Dicevo, nei giorni scorsi a Terni è arrivata una notizia. Io voglio abbracciare, sempre che non sia veramente uno spacciatore seriale, questo signore di 66 anni che ha detto di coltivare in casa la marijuana perché in questo modo evita al figlio di andare dagli spacciatori, da persone poco raccomandabili. Ha detto proprio così. Poi certo gli hanno trovato forse anche un bilancino, una serie di cose. Io non lo so se è uno spacciatore questo qua, ecco, se il figlio fa lo spacciatore. Mettiamo che non lo sia, sia per la consumazione, per il consumo, diciamo, della marijuana a uso personale. Coltivo la marijuana per mio figlio, che ne è un grande consumatore, così evito che la compri da persone poco raccomandabili. Mamma. Questo è stato denunziato. Questo, a questo va data una medaglia. A questo signore qui va data una medaglia, caro David. Va data una medaglia. Questo, se fosse, mettiamo che sia vero quello che dici, io non lo so, magari non sarà vero, questo è il più grande spacciatore del secolo. Esatto. Ma uno che coltiva in casa la marijuana perché il figlio è un grande consumatore e uno può fare il cazzo che vuole della sua vita a 28 anni, qual è il problema? Qual è, a chi no, fa certo, male? Su chi questo danneggia? Ti posso anche seguire sicuramente. Chi danneggia? Certo, coltiva a casa per la uso personale, certo. Perché il figlio eviti di andarla a prendere dallo spacciatore, sì, sotto può casa, una buona a comprarla iniziativa. Da un delinquente. Sì. Dai, sappiamo che è successo tra l'altro in Umbria di recente. Sappiamo quello che è successo, no? Dai, Bruno, che ancora è collegato sto Bruno, dai, Bruno. Collegato, sì, però per cortesia, io mi sono chiuso al bagno perché la mia esperienza sessuale te la voglio ricordare, mia moglie non la può sentire. Ma perché però tu, prima tu c'hai, devi... c'hai anche una moglie, c'hai anche una moglie. Tu c'hai una moglie, due figli, tu c'hai anche una moglie, sei, tu un, un disgraziato come te, tu un disgraziato come te. Ma me conosci almeno, un disgraziato come te ha anche una moglie e i figli, la cosa ti dico un'altra cosa, io ho fatto la terza elementare, però come esperienza ti faccio un bucio di culo e finisce mai. Sì, ma su che cosa, su quale fronte? Su qualsiasi argomento. Quale argomento? Senti, facciamo così, partiamo da Milano, da dove cazzo ti pare, senza un euro, no? Andiamo a una nazione. Vediamo chi campa, io e te, stronzo. Questa è una buona. Tu che campi, mori di fame, David, tu questo... mori di fame, sono... testa di cazzo. Sono perché lavoro, dai Carlo, dai Carlo. No, andiamo a un'altra nazione, senza un euro. Freccero, che dici? Naturalmente nascono ormai dei vivai di format in tutta la rete, molto bene, nel net. No, dico, ma hai sentito Bruno che ha detto, no? Con un euro, un esperimento di campare, sì, io e lui. Molto bene, una bellissima idea, naturalmente. Un po' Pechino Express, diciamo. Pochino Express, naturalmente manca la violenza, la cattiveria, naturalmente. Sì, troppo edulcorato come troppo programma. Edulcorato, non ci vuole qualche, non muore nessuno, qualche non situazione muore un po' estrema, naturalmente mandare uno con un euro oggi è la normalità. La gente non ha soldi e quindi già vive naturalmente con un euro. Bisogna mettere qualche carico da 90, ad esempio prendere una persona a cassa integrata con Bruno, due figli, dici, con dei problemi naturalmente. Bruno, come Bruno, disgraziato, alcolista, come... alcolista sì, Bruno, anche appena Bruno. Uscito dalla galera naturalmente. Sì, sì. Ma e metterlo Parenzo, in un'altra condizione estrema. Parenzo, la conosci la sinistra? Che cazzo parli? Dice sciacquiti la bocca. A sinistra? Sì, quando cosa parli di sinistra, sciacquati la bocca. Sciacquati la bocca. Sinistra, di... però, sciacquati chi è la bocca. Sinistra in Italia chi oggi? È la sinistra stronzo? In Italia, stronzo. Ma perché dà stronzo a chiunque così? Uno c'ha... Ma mi spiegate perché io devo stare qui a parlare di sinistra in Italia? Ma mi volete spiegare perché devo stare qua due ore a farmi dare dello stronzo da non signor nessuno? Ma volete spiegarmi perché? In Italia, stronzo, uno. Chi no, è la sinistra in Italia? Ancora? Non ma mi vuoi dire perché devo più stare qua due ore in trasmissione dal lunedì al venerdì a farmi dare dello stronzo da un quisque del popolo qualunque? Ma mi vuoi spiegare perché? Ma tu parli di sinistra che non esiste in Italia. Ma io non esiste una parola per ora. Non esiste. Diglielo, Bruno, non esiste. Sono cristiani questi, come li vuoi chiamare? Non sono di sinistra. Non esiste, su, se non no, esiste. Studia davvero, fai i libri, studia, no? Vedi chi è l'uomo di sinistra, no? Studia, dai, studia, ma che cosa, cazzo. Cosa che detto? Che mamma mia, ma senti un po', Lucia, ma fai di una cosa su sto Zingaretti. Hai rotto, sul mio presidente. No, mi hai rotto i coglioni, Bruno, devi andare semplicemente serenamente e teneramente a fare in culo, posso dirti? Devi sì, andare a fare in culo. Ma per carità, io ce l'ho ancora sano, tu non lo so come ce l'hai. Ciao, beh, questo ciao. Edoardo da Roma, avanti tutta ragazzi. Amico mio, Roma, che bello sentirti. Dimmi, non lo so, non te conosco, però va bene lo stesso. Ancora non mi conosci, anzi no, noi ci conosciamo già. Quanti anni hai, Edoardo? Quanti anni hai? Ho 31 anni, vai. Abito a Roma Nord. Vabbè, che vuoi, Edoardo? Perché mi hai chiamato adesso? Andiamo a chiamato, t'ho chiamato perché, numero uno, sì, Sgarbi sì, sindaco. Sì, tutta la vita, Sgarbi sindaco tutta la vita, più tardi lo numero sentiamo. Numero due. Poi? Voglio sentire tutti quelli che davano del bugiardo e mi fermo così a Cristiano Aresu. Sì, che c'entra Cristiano Aresu? Ma quello, per quello del farmaco sotto lockdown. Ma che Lavigan, dai, ancora questo mio, ancora Lavigan, ancora Lavigan, dai, su, dai. Amico mio, è commercializzato in Russia, è stato sperimentato da Zaia, che è l'avamposto. Ma questo quando? Questo mesi momento. Fa, ma poi è stato abbandonato, nessuno adesso utilizza Lavigan. Ma Edoardo, la terza cosa quale sarebbe? Avanti. La terza cosa è che te voglio bene, fammi un cazzo di festino. Intanto ragazzi, c'è una persona che ha avuto un'idea geniale per i matrimoni, come fottersene delle prescrizioni sui matrimoni, cioè al massimo non so quante persone, 10, 15, adesso manco mi ricordo, eccetera, per i matrimoni, ma ci rendiamo conto della follia, cioè i matrimoni, già io all'orticaio la parola matrimonio, però un signore che è qui, Mario Dinolfi, che saluto, avanti tutta, Mario, eccoci qui. Ciao ragazzi. Ha avuto un'idea geniale su come aggirare la norma sui matrimoni. Siccome gli autobus e i mezzi pubblici sono pieni di gente e tutti se ne sbattono i coglioni di quella roba lì mentre ti dicono ci matrimonio. Si sposa in autobus? No, dimmi un po', dillo un po', Mario, sta roba qua. Andiamo tutti in metropolitana, ragazzi, tutti alla metro A di Roma, ci mettiamo tutti in metropolitana, ingaggiamo anche una banda di zingari, gli facciamo fare il concerto alla Goran Bregovic, c'è una mia amica che si deve sposare, gliel'ho detto veramente, ci ritroviamo tutti sulla metro, distribuiamo le bomboniere tra Re di Roma e Numidio Quadrato, facciamo suonare gli zingari, puoi fare fino a 200 persone, puoi fare. Certo, ci divertiamo come pazzi, è il matrimonio più bello del mondo. E nessuno ti può dire una bella idea. Ma nessuno ti può dire un cazzo, tra l'altro, perché nessuno perché stai lì, fai avanti e indietro con la metropolitana. Questa 200 persone idea. Dentro, paghi, quanto vuoi pagare al massimo? 10 euro a persona, 10 volte sono andare... pure sono pure inclusivo che metto dentro la banda di Roma, cioè è perfetto, direi. Sì, ma sei politicamente, quasi politicamente corretto. No, l'idea è molto buona, molto buona. Senti, io voglio capire una cosa da Mario, però io mi sono incazzato ieri con questa storia del coraggio di chi dichiara di essere omosessuale. Allora, ma mi sono incazzato come una bestia, abbiamo parlato di Garco, eccetera, e adesso è spuntata fuori Carolina Morace. Ma dov'è il coraggio, David? Ancora insisti con sto coraggio? Dov'è, David, sto coraggio? Non esiste questo coraggio. Sono portati su... Perché David dice che sono David ha detto il grande coraggio di Carolina Morace perché ha detto di essere lesbica. Grande e che vuole coraggio, avere un figlio. Perché in un mondo come il nostro, dove queste persone vengono sbertucciate, alle volte derise, alle volte addirittura messe da parte, come accade in alcune scuole. Elementari, ragazzini che si sono suicidati perché hanno rivelato di essere omosessuali. Ha avuto grande coraggio, perché la sessualità è ancora un tabù in questo paese. Che se ne dica, non è un tabù, è il contrario. Sei privilegiato se dici di essere gay oggi, hai il favore di una grande parte dell'opinione pubblica. Ma che cazzo dici? Ma quale favore? Mario, dillo tu che sono privilegiato, perché sennò altrimenti sembra che sono più Adinolfiano di Adinolfi. Il problema è che David pensa che Garco e la Morace sono i nuovi Falcone e Borsellino. Per cui, è un gustosissimo paradosso dialettico. Ma non l'ho mai pensato. Penso che ci sono dei ragazzini che però sono morti per questo. Questo sì. Sicuro. Garco e Morace fanno un giro di conti e capiscono che fino a prima era conveniente dichiararsi, o come diceva Garco, avere il segreto di Pulcinella, o non dire niente. E oggi è conveniente, fatto il giro di conti col ragioniere e la partita IVA davanti, dichiarare che affiliarsi ufficialmente alla lobby vincente è conveniente, molto semplicemente conviene. Scusami, lascia stare Garco. Garco è un VIP, un ragazzino di Caivano che dice di essere omosessuale rischia. Un ragazzino di Caivano, qualora avesse l'ardire di dichiararsi pubblicamente omosessuale, rischierebbe di essere preso in giro nella migliore delle ipotesi. Lascia stare Garco. Scusa, ma secondo te, Mario, scusami un attimo, ma secondo te tu hai parlato addirittura di cosca dei gay, non ti sembra di essere poi esagerato? L'ho ripetuto perché l'ho detto alla Zanzara, che c'è un gruppo di potere, l'ho chiamato Cosca evidentemente, che è ramificato e detiene postazioni di potere che peraltro vanno pure male, perché se tu affidi Alberto Matano e togli Lorella Cuccarini dalla conduzione della vita in diretta su Rai 1, gli ascolti peggiorano, perché Roberta Buscarini rappresenta un pezzo di Italia diversa da Alberto Matano. Ma la gente non sa nemmeno che Alberto Matano è gay, però la gente che guarda Rai 1 non è che si accorge che Alberto Matano è gay. Se non vede Lorella Cuccarini, che è secondo me una star di rilevanza. Ho capito, ma quello lascialo decidere i dirigenti della Rai chi mettere in video o no, non è che lo vuoi decidere te in base al fatto. L'ha deciso, ora che il bilancio è estremamente negativo e la vita in diretta viene battuta tutti i giorni. Cioè, secondo te la cosca dei gay decide chi mettere a Rai 1, secondo te? Beh, io ho detto, e lo ripeto alla Zanzara, che è una filiera che parte da Palazzo Chigi, passa attraverso ministri influenti, arriva in Rai e nomina evidentemente direttori di rete. Cioè hanno occupato militarmente la TV, secondo te? Una parte della televisione, anche privata, è occupata... Stavo di sabato sera a cercare di fare il normalissimo sabato sera che davanti una volta facevamo, no, quel fantastico scommettiamo che col varietà di Rai 1. Adesso se mi guardo il varietà di Rai 1 devo spiegarmi e spiegare alle mie figlie di 10 anni e di 2 anni perché Vittoria Schisano prima era maschio, poi era femmina. Ma quello è normale, perché non glielo devi spiegare? Scusa, non lo capivo. Qual è? Però, cioè, Rai 1 non ci dovrebbe, cioè, secondo te non ci dovrebbero essere trans a Rai 1, non dovrebbe apparire un trans a Rai 1, no? Ma dimmelo. Io penso, l'ho detto con chiarezza, che alcune trasmissioni e alcune fasce orarie, come si faceva una volta, debbano essere tranquillamente per famiglie, cioè no trans, no, concretamente, no trans, no gay. Concretamente credo che l'ideologia gender debba essere un'ideologia che può essere collocata fuori dalla stazione. Sì, ma concretamente no trans, cioè i trans non devono andare in... Trans mi sembrerebbe ormai ridicolo fare una battaglia contro i mulini a vento. Ripeto, quel giorno io avevo su Rai 1 la performance della Schisano. Ho capito, ma la Schisano ho capito. Perché hai cambiato canale? Perché volevo cambiare canale, visto che non mandavo di vedere quella roba, ho visto su canale 5 l'esaltazione di un'altra transessuale. Cioè, ma non c'è nessuna esaltazione, è la realtà, è nella società, nessuno esalta niente, cioè rassegnati, esiste. Non ce la fanno, sono decine di milioni che possono essere raccontate, messe a ballare, che possono raccontare la loro fatica di vivere e magari cioè, si raccontano molto più le traversie, diciamo le cose di un transessuale piuttosto che non è ovvio, solo quelle, ma io stesso vengo chiamato in televisione a parlare solo di quello, mai di una famiglia che fa fatica ad arrivare a fine mese, mai di un papà. Ma quello c'è sempre, su trasmissioni mai su trasmissioni che è pieno di trasmissioni che raccontano la gente che non arriva là, Mario, su, ma è pieno di gente che racconta le difficoltà degli italiani a mandare avanti la baracca, dai, su. Io sono il presidente del popolo della famiglia, vengo chiamato a parlare di famiglia solo se accanto c'è l'aggettivo omosessuale. Altrimenti non vengo a... Cioè, secondo te hanno, cioè, una lobby che ha occupato militarmente la televisione, secondo te? Con tutta evidenza la sproporzione tra la realtà di questi casi e la verità della vita delle persone è troppo evidente, ragazzi, ma parlate con la gente. Ma secondo te le nuove famiglie sono quella roba là? Le nuove famiglie sono quella roba là? Le nuove famiglie sono questa roba qui, ragazzata, che vuol dire? Io vengo fermato ogni giorno, 5 volte al giorno, da gente che mi dice vai avanti, fai queste battaglie, perché io non ho il coraggio di dirlo. Ma secondo te, che coraggio? Ma qual è il problema? Io non ho il coraggio di dirlo. Ma chi è che censura? Se lo dico ci sarà sempre un David Parenzo che dice non è vero. Scusa, ma secondo te un transessuale può fare famiglia? Secondo te un transessuale no? Ma cioè, certo, ma evidentemente tempo. Come la fa la famiglia? Scusa, ma con chi cazzo vuole? Con un uomo, con una donna, con chi cazzo gli pare? La famiglia è definita dall'articolo 29 della Costituzione. Dunque, un transessuale non può avere una famiglia. Non dice te. Però maschio o femmina, non dice maschio l'articolo o femmina. L'articolo 29 della Costituzione dice che c'è il matrimonio, e in Italia ti do questa informazione, Davide: il matrimonio è tra maschio e femmina. Sì, no, ma non c'è nella Costituzione, non specifica maschio o femmina. Secondo te il transessuale. Transessuale è destinato secondo te a non poter fare famiglia, cioè non può fare una famiglia secondo te un transessuale? E perché mai non potrebbe? Certamente il transessuale non costituisce una quando fa quella scelta, sa, ed è per questo una scelta molto dolorosa che io rispetto anche. Però non sa che non può formare una famiglia. Ma sa che non formerà una famiglia. Lo e poi se poi si sposa con, che ne so, si taglia il cazzo e si sposa con un uomo, come è successo è una famiglia questa qua, secondo te? Non ho capito qual è. Allora, un transessuale, amico mio, si è tagliato il cazzo. Si è virato, si è tagliato il pisello, ho detto in maniera più gentile, diciamo. Un bellissimo libro, ma si può dire ogni cosa che dici, la si può dire con una qualche pericolo. Vabbè, ma ho capito. Io ho un messaggio diretto. Io parlo come parla. Vabbè, si è tolto quello che si è tolto. E poi si è sposato con un uomo. Non è famiglia quello. Sposato con un uomo, perché evidentemente era un uomo quella persona. Era un uomo, è diventata femmina e poi si è sposato con un uomo. Adesso non mi ponete dei casi limite. Ma no, dei casi limite. È la vita. La vita, ragazzi, vera. È 29 milioni di italiani che sono sposati, fanno fatica ad arrivare a fine mese, allevano 15 milioni di figli minorenni e maggiorenni. Come il capo di questa cosca dei gay di cui tu parli, il capo bastone di questa cosca dei gay, chi è il capo? Il capo assoluto a Palazzo Chigi, a Casalino, secondo te il capo della cosca dei gay? Dillo chiaramente, chi? Non solo, io penso a Casalino, Spadafora, un gruppo di persone che sono a Palazzo Chigi. Ma li stai paragonando a cose? Come si chiamano? Che ne so, tipo Rina e un altro. Ma perché si deve parlare dei gusti sessuali di chi lavora a Palazzo Chigi? Sto paragonando a persone che hanno raccontato per una vita di essere diversi dagli altri, che non avrebbero e che adesso comandando mettono persone uguali a loro, ma perché devi mettere il naso tra le lenzuola di Casalino? Casalino farà le sue scelte, lo criticherai per le sue scelte. Mario, un'altra cosa, ieri il professor Crepè qui da noi alla Zanzara ha detto una cosa. Grande. Ha detto che fosse per lui, non c'entra niente con Gai 1 o con altre cose di questo tipo, fosse per lui chiuderebbe i locali per scambisti, la prostituzione andrebbe bloccata, o comunque consiglia alla gente di non andarci perché, diciamo, ci si infetta di più. Adesso tu questi locali qua che tu non ami, che forse già chiuderesti a prescindere, ha ragione Crepè. Situazione vanno chiusi i locali dove ci si sta. Per me quelle sono colonie del male, io l'ho già definito come colonie del male. Ma certo, gente si va a divertire. Dove gente ci si infetta, si sta in una condizione di promiscuità senza senso, secondo me non ha proprio senso dare, come dire, patenti e possibilità a realtà del genere di esistere. Non dovrebbero esistere. Già, non dovrebbero esistere in prigione. In più, in questo periodo andrebbero chiusi perché sono fonti di contagio. Ma ovviamente, ma non c'è, no, ragazzi, ma che davvero scherziamo. Non posso andare a fare la festa con 5 amici, ma posso andare a capito, ma tu hai consigli di andare a cosa? Consigli di fare il matrimonio con 200 persone se dentro la metropolitana per aggirare le norme, le quali per scambisti no. La festa è il matrimonio, è la cosa più bella. E ho capito. E che c'entra? Uno a qualcuno piace 70.000 matrimoni di meno quest'anno, io voglio che ci siano più matrimoni possibili. Ho capito, affinché nascono più figli possibili e più famiglie possibili. C'è la pillola dei 5 giorni dopo. La pillola dei 5 giorni dopo, una cosa straordinaria per i minorenni. Un atto criminale. Ma che dici? Perché è criminale? È una bomba di ormoni che viene data a tre minorenni senza ricetta medica, ed è una vergogna che questo paese sia arrivato a una cosa del genere. Ma perché è una vergogna? Ma è certo, quindi è una pillola abortiva, perché uno, se va da un genitore, magari si può trovare in difficoltà, allora, non gliela fa prendere, no? Caro Giuseppe, sì, la legge 194 prescrive che le pillole abortive non possono essere vendute in farmacia, ma solo tramite ospedale, c'è una ragione. Questa viene venduta per interessi biechi. Viale, dove sei? Viale, dove sei? Che ci fa dov'è la conta? Dottor Viale? Dov'è, certo, che ci fa la conta? Che ci fa la conta ogni giorno degli aborti che ha fatto? Facciamo il bollettino del giorno, con dottore. Interessi biechi che sviluppano decine di milioni di euro di fatturato. Beh, così sì, come tutte le cose. Milioni di euro di fatturato per chi le produce sono stati regali fatti alle aziende farmaceutiche sulla pelle delle giovanissime. Scusa? E voglio dire di più, anche della famiglia. Perché un genitore di una minorenne ha diritto a sapere se quella minorenne si è messa in quella condizione. Scusami un attimo, ma uno che fa ogni giorno... Ma è l'aborto, è un diritto. No, l'aborto non è un diritto, Davide. Ma come no? Certo che è un diritto. Cioè, il diritto ad abortire è un'estrema razio. Cioè, hai la possibilità di farlo entro i termini di legge, ed è un diritto. Mario, ma secondo te uno che fa il conto ogni giorno, che l'abbiamo chiamato 2-3 volte, il conto degli aborti che fa, che è un criminale, un pazzo? Beh, sì, secondo me ha fa il suo lavoro. No, ha un'attitudine di odio nei confronti della vita che veramente farei curare da qualche psicologo. Di odio? Ma è uno dei più grandi medici piemontesi? No, è uno dei pochi, peraltro, odio, medici veramente abortisti. Aiuta, ma che odio dei bambini? Aiuta, ma quale odio? Aiuta una persona in difficoltà ad abortire, cioè a esaudire un suo desiderio. Racconto un episodio di poche settimane fa. Nacque quel ragazzino, Giovannino, vi ricordate, con la pelle devastata. Viale disse che era meglio che non fosse nato. Allora io no, non dice questo. No, non disse esattamente questo. Non disse che disse che sei genitore. Che viste le condizioni in cui è rimasto in vita, per lui e per i genitori sarebbe certo quella sofferenza inaudita che questo bambino ha. La storia e la vita di Giovannino ha molto da insegnare a Viale e a tutti noi. Scusami un attimo, ma per concludere, scusami, dato viva che Giovannino 10.000 volte davanti a Silvio Viale, viva dato, Giovannino. Dato che secondo te, ma chiamiamolo Viale, hai detto più volte, gay e diciamo transessuali, eccetera, eccetera, hanno una vita, diciamo, sessuale più allegra rispetto alle coppie tradizionali, rispetto anche a un eterosessuale. Tu l'hai detto più volte qui. Secondo te hanno più possibilità? Non mi ricordo di averlo detto più volte, ma comunque sì, hanno una vita sessuale più, hanno una vita sessuale più promiscua, diciamo così, promiscua, certo. Secondo te hanno più possibilità di prendere il coronavirus in questo periodo? Beh, penso di sì, penso che quella vita sia ogni vita che porta alla promiscuità e anche a contesti e a locali in cui ci si può incontrare in quella maniera abbia evidentemente un profilo di rischio più alto rispetto a quello della vita hai detto delle parole gravissime su Viale, comunque, che è uno che odia i bambini, un criminale, cioè hai detto delle parole gravissime su Viale, che invece fa il suo mestiere, è un grandissimo medico, ma che stai scherzando? Aiuta delle persone che vogliono semplicemente esaudire un loro desiderio in quel momento, un loro diritto. Migliaia di bambini, secondo me, ma non ha soppresso niente, ha soppresso dei feti. Non ha soppresso nulla, ha soppresso dei feti. Ciao Mario, a presto, ciao, avanti tutta. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Ma guarda che incredibile cosa. La Zanzara. Da censura, questa radio è da censura, è da censurare. Questa radio è da censura. Cazzo, leggi le poesie. Leggi le poesie delle Carla Gnocca, lecca, sì, così brava, mamma, sì, che sì. Poesie. Ma te, a parte che sei da curare, ma questa radio è da chiudere. Da chiudere, come dice il grandissimo David Parenzo. Sì. Questa radio chiudere. No, viva Parenzo, viva i parenziani. Ma... No, scusa, no, non la radio, il programma, no, la radio, anzi, ha una quello, grandissima per dignità. Quello basto io, per quello basto sì, io, diciamo. Per quello basto io, ragazzi. Allora, dove andiamo? Tommaso da Firenze, anzi, prima c'è Emiliano da Torino. Dai, Emiliano da Torino. Dimmi, tutta sta dimmi, gente Emiliano. Buongiorno, shalom parenzo. Sì, parenzo. Shalom, vedi che il mondo caro, ebraico shalom. Segue ma questa trasmissione, mondo? Il mondo c'è ebraico. Che piglia per il culo, ma quale mondo? No, mondo? No, assolutamente. Ma perché piglia per il culo? Ma magari questo qua è un rabbino, manco lo sa. Ma non chiamerebbe mai un rabbino alla Zanzara. No, ce n'è uno veramente esatto. Che abbiamo chiamato in passato, l'ottimo Shlomo Beccon, per la verità. Allora, l'epilogo di ieri sera, il dottor Bacco, sì. la Martani sì. Amante di Cruciani, ma no, maschio 100%, cioè. Maschio 100%, un disastro, che cita Pappalardo alleato con i non più fascisti di Forza Nuova, beh, non più. Quindi fascisti secondo lui, poi ieri sera puntata meravigliosa. Allora io mi prendo una responsabilità che oggi in Italia ci sono in diverse regioni d'Italia si sono moltiplicati i casi di terapia intensiva. No, non si sono moltiplicati, c'è qualche caso in più di terapia intensiva, ma bisogna vedere occupando le terapie intensive. Bisogna, certo. In terapia intensiva oggi che nel solo del lockdown. Sì. Bisogna vedere che tipo di malati sono in terapia intensiva, Emiliano, bisogna vedere. Allora, stai dando dei criminali a quelli che non chiudono quelle regioni o che non fanno il lockdown come a marzo? Io sto dando della persona poco attenta a questo tipo esatto, di tema. Esatto. Ma chi sarebbe? Ma che dici? Tu stai dando poca attenzione a questo ma tipo che di dici tema. Ogni giorno? Ma 62 ore e mezza di puntata con quelle teste di cazzo. Non puoi, Cruciani. No, ma è incredibile, infatti. È una roba che non si può fare. Emiliano, non si può fare, lo dici a casa tua e lo vai a dire a qualcun altro. Io faccio il cazzo che mi pare, do voce a chi mi pare, capito? E ti assumi le responsabilità di quello che dici. Ti faccio parlare e ti faccio criticare questa trasmissione. Caso unico, peraltro. E se io chiamo e ti dico che ti prendi la responsabilità di quello che dici, e in più in Italia si stanno moltiplicando le terapie intensive causa Covid-19, tu devi prendere atto e magari ma che cosa prendo atto? E non far intervenire queste teste di cazzo. Ma questo, ma chi sei, scemo? Ma tu sei completamente pazzo. Ma bisogna vedere, sentiamo Bassetti che tipo di terapie intensive, intensive sono. Sentiamo Bassetti. L'unica casa a cui tiene Cruciani, perché poi è quello che c'ha tutti gli aggi della terra, e l'ha messo in evidenza davanti a tutti, che è proprio il culo. Lui guarda soltanto il proprio culo. Permette a tutti di dire tutto, però nessuno può dire nulla a Cruciani. Ma figuriamoci, ti sto lasciando parlare da 5 minuti, rincoglionito. 5 minuti, 5 minuti che stai parlando, coglione. 20 secondi che parlo. Ma quale 20 secondi? Da quanto è che parla sto cretino? Dimmelo un attimo, Andrea, dimmelo. Ma è bello, piccoli discorsi. Quando sei messo al muro, si sente in cazzo. Quando sei messo al muro, girato all'angolo, col tuo bel culetto, col tuo bel ti piace il culetto? Ti piace il culetto? Chiacchierato. Ti piace il culetto? Ti piace il culetto? Ti piace il culetto? Riccioletti d'oro, ti piace? Ti piace il culettino? Ti piace il culettino sporgente? E poi ieri l'apoteosi dell'apoteosi. Ti piace il culetto sporgente? Il culo a mare a Milano da 8 persone. Scusi, lei che cosa vota? Non lo posso dire, ma mortacci tua. Incredibile quello, incredibile. La cosa, la puntata più incredibile, Parenzo, mille rispetti a te, perché è tremendo quello che devi sopportare. Non so se te lo sopporti, è tremendo. È tremendo. È una roba... Vuoi togliere, vuoi togliere via voce l'auricolare, cretino imbecille, che non positivi, sei altro. 41 morti in 24 ore, terapie intensive più 62. Incredibile. Ci sono terapie in tutto il centro-sud. E allora? Ci sono terapie intensive a causa COVID-19. E allora? Perché non chiudete l'Italia? Perché non chiudete l'Italia? Perché non chiudete l'Italia? Criminali! Chiudete l'Italia! Ma io dico il cazzo che mi pare, capito? Ciao Emilia, perché Emilia, se te lo prendi sono cazzi. Ciao Emilia, vai a fare il culo. Tommaso da Firenze, vai. Dimmi Tommaso, adesso faccio un altro regalino Emiliano, chiamo un altro medico, peraltro credo praticamente radiato, che è uno dei negazionisti dell'Italia, tale medico, tale medico. Ma la cosa incredibile è che non gli dici niente. Tommaso da Firenze, allora, dimmi. Sì, io ragazzi mi trovo in questo momento nello spogliatoio della mia squadra di calcio e stiamo discutendo se siamo amatori o dilettanti, non ci capiamo più un cazzo. Giusto, perché noi ancora sappiamo, non è chiaro. Meglio sarebbe andare a fare una corsetta da solo. Che per sei mesi abbiamo resistito e non abbiamo giocato. Adesso siamo tornati da un mese ad allenarci e questo ci permette di disputare per terra in campo, di darci calci, di picchiarci, di darci le botte, di sfogarci. Se ci richiudono un'altra volta e se ci impediscono di sfogarci, e chi li risarcisce, i proprietari dei campi che affittano alle squadre amatoriali di calcetto? Chi li risarcisce? Più di questo, che comunque è un mondo che non permette di campare, permette di arrotondare almeno la realtà toscana e fiorentina che viviamo. Vabbè, allora? È questa. Il problema è il risvolto psicologico, cazzo. Io non posso entrare a gamba tesa su mia moglie. Io non lo posso fare, ma ho bisogno di farlo. Questa rabbia repressa che noi abbiamo per il lavoro che non va, per tutti i problemi, giusto, per la sfoga, ma tutti abbiamo i nostri grandi problemi, grandi o piccoli che siano. Una partita IVA che non ha avuto nessun tipo di aiuto. E questo vuole andare a giocare a calcio e a magari a divertirsi con i suoi amici, non può andare perché hanno proibito il calcio amatoriale, hanno proibito le partite di calcetto, ma roba da pazzi. Ma impediscono di fare delle cose che ci permettono di sfogarci, ci permettono di non pensare. Caro Davide, questa trasmissione è fatta apposta per sentire l'umore delle persone, sentire l'umore della gente, la verità, la realtà. Ma non c'è dovrebbe piacerti la realtà. Ma quella realtà, la realtà. Leonardo, provincia di Vicenza, vai Leonardo. Non funziona più. Salve. Sì, ho capito Carlo, ho capito che vuoi sangue. No. Cioè, vuoi se non c'è la morte in diretta, ho capito, adesso non ti accontenti più la vita DPCM, naturalmente i DPCM, no, ho capito, noioso, ormai, sì, noioso, ho capito, i DPCM. E non puoi andare qui, e non puoi andare lì, e puoi stare lì fino alle ore 24, è il talk show. Se parlano dell'ora in cui puoi stare, no, le 22, hai detto le 23, ma che programma è? Un programma che discute. Telese, dai, giusto Telese, non può fare. E allora bisognerebbe fare? Spiegami, cosa bisognerebbe inventarsi una narrazione totalmente diversa. Sì, ho capito, ma cosa deve venire fuori? Ci stiamo ragionando. No, ma cosa deve venire fuori? La morte, la nuova, i nuovi morti, ragionando, i nuovi questi decreti non danno grande ispirazione, no, ma questo non c'è dubbio, ma il ritorno del virus pone delle grandi speranze, naturalmente. Grandi speranze, gente terrorizzata. Speranze della morte, dici, della morte. Questo ritorno del virus, naturalmente, bisogna guardare all'ottimo modello francese, naturalmente. Al dilagare della paura, naturalmente. Raccontare... In Italia siete qua tutti a discutere. Le 23, e allora, sì, la 24. Il calcetto, addio, e le porta a porta, la quarantena la morte ridotta. Dov'è? La morte basta dov'è? Un tampone, ma sì, noiosissimo. Sì. E questi servizi che ti raccontano un tampone e i reagenti non arrivano, dai. La morte dov'è? Dici la morte, la realtà morte dov'è? Certo. Non viene vista, non viene inquadrata. Molto buono questo dilagare in tutta Europa, naturalmente. Ma come naturalmente. Riporta gli ascolti al centro, naturalmente. Grazie, grazie, grazie. Che avevo detto di chiamare Miedico, sì, Miedico, chiamiamo un po' questo Mieli. Miedico. Paolo Mieli, Mieli ottimo, altro... magari chiamassimo Paolo Mieli anche noi. Miedico. Sarei felicissimo se chiamassimo Paolo Mieli io. Meno male. Sì, pronto? Miedico? Sono io. Buonasera, sono Cruciani, come stai? Bene, bene. Senti, ma come va questa storia con la con il Covid, secondo te? Secondo me andrà bene, ma perché io sono un ottimista, capisci? Sì, non c'è dubbio, però, ma tu pensi che il vaccino sia così dannoso come, come dicono alcuni... No, diciamo... secondo me il vaccino non sarà tanto dannoso e lo può essere, non lo so. Ma so per certo che non sarà efficace. Tu non lo faresti mai il vaccino? No, non ci penso nemmeno. Perché tu sei uno di quelli che già i vaccini sei più o meno contrario, diciamo, no? No, io non sono contrario ai vaccini, io sono contrario a ogni obbligo. A ogni obbligo, in modo, sì, in modo che io voglio scegliere, sì, uno scegliere, certo, di non farlo. E la mascherina? C'ha il vaiolo, c'ha il vaiolo, sceglie. La mascherina purtroppo c'è per legge, per cui lo devo fare, se no rischio 400 euro. Però ti sta sui coglioni la mascherina, diciamo la verità. Vabbè, certo, quando posso la tolgo. Tu pensi veramente che ci sia una specie di dittatura che ci vogliono imporre da questo punto di vista? Ah, cioè... guarda, io non sono un complottista. Sicuramente le industrie farmaceutiche ci marciano perché ci guadagneranno una barca di soldi. Dunque tu non questo, sei, questo non... sono sicuro. Dunque tu non sei tra quelli che pensa che il Covid sia così pericoloso alla fine? Ma non lo è, lo si sta vedendo dai fatti. Come ha fatto morire all'inizio un sacco di gente dando indicazioni sbagliate. Se avessero dato subito le indicazioni giuste non moriva nessuno. E dunque secondo te non è così letale alla fine? Secondo me non è sicuramente così letale. E dunque c'è questa allarme che c'è in tutto il mondo, questa situazione è creata da qualcuno ad arte per guadagnarci? Ma certamente. Ma cioè, come certamente? Purtroppo ti devo salutare perché guarda, in questo momento sono impegnatissimo. No, però aspetti un attimo, scusi, mi faccia capire una cosa, sono Parenzo, perché sono stato zitto ad ascoltarla e sono veramente veramente allibito. Lei allibito non fa... di che cosa? Allibito di quello che lei ha detto, che non è pericoloso, che cioè voglio dire, lei deve essere cacciato dall'ordine dei medici a pedate del sedere, proprio, infatti, una vergogna nazionale. Non mi sono morte centinaia di medici. Centinaia di medici perché sono morti. Sono stati tutelati. Dai, ma perché ancora il virus non si conosceva? Ma che c'ha da fare? C'ha da fare un cazzo lei. Chiedo scusa un momento. Chiedo scusa, pubblicità. La Zanzara. So come on. Buffoni, dov'è la puntata del podcast di ieri? Sono le 16:31 e manca ancora la puntata del podcast di ieri. Il podcast del futuro, il podcast del futuro, il futuro un cazzo. La Zanzara. Ciao Cruciani, sentivo il podcast di giovedì. Praticamente adesso sono in Inghilterra e sono passato dalla Francia. Sono 41 anni che sono in giro per l'Europa. Ho avuto la donna, una compagna francese a Parigi e una compagna 8 anni in Belgio. Ti posso non dire, te lo posso giurare e assicurare che se la nostra ASL andrebbe in qualunque attività in Francia, in Belgio, in Inghilterra, le chiuderebbe tutte. il senso della pulizia che hanno loro è uguale allo zero. Allora ragazzi, tra poco chiamiamo Sgarbi sulla candidatura a sindaco di Roma, che noi appoggiamo a spada tratta. Io posso appoggiarmi. Ma volevo dire una cosa. Allora, oggi è stato risultato positivo, come sappiamo, Cristiano Ronaldo, altri giocatori in giro. La follia di far viaggiare questi qua in tutta Europa in queste ore è una roba da pazzi. Cioè, ma questi qua perché non hanno evitato di giocare le partite internazionali? Già è un problema finire i campionati. In più fai girare le persone in tutta Europa. Dai, questo è ridicolo. Puoi essere d'accordo con me su questo? Cioè, assolutamente, no? Assolutamente. Cioè, e dov'è Alvino? Dov'è Alvino adesso che è positivo Cristiano Ronaldo e la Juve comunque giocherà sabato? Giocherà sabato la partita. Dov'è questo Alvino? Non funziona. Dov'è ovviamente Alvino? Cioè, chiamiamo Sgarbi, dai. Vittorio? Come andiamo? Benissimo. Allora, è già pronta la lista La Zanzara per Sgarbi sindaco. Domani lo annuncio e tu sei naturalmente assessore. Vado avanti. Io dico una cosa. Qui, ma dai che là. Vai. Sei in macchina? Ma io non posso, Vittorio, sostenerti, perché mio cognato è Tobia Zevi, è candidato sindaco a Roma, quindi non posso sostenerti. Sono, ho fatto un'alleanza. Fai confluire su di me. Ma facciamo confluire. Ma che è Tobia Zevi Sgarbi? Facciamo, ma che è Tobia Zevi? Ma dai! Facciamolo tutto il mondo ebraico è con me da sempre. Confluire, vabbè, non lo so, si confluirà. Sì, tutto il mondo ebraico è con Vittorio, diciamolo subito. Però voglio dire una cosa, Vittorio, allora, la Zanzara per Sgarbi sindaco, però facciamolo sul serio, non è che poi molli all'ultimo secondo e vai con Calenda, ecco, ho letto questo, da qualche questo parte. È incredibile. No, ormai Salvini ha dato già il suo placido, mi pare di capire, esatto. Ma vediamo che gli altri non lo diano, si può... È il modo migliore per fare delle primarie, cioè sono un candidato di Fratelli d'Italia, uno di Forza Italia, uno della Lega e Sgarbi vanno alle primarie. Salvini è d'accordo e Forza Italia, ma è un paradosso. Sono quelli che non hanno votato per me ad Aosta, dove abbiamo quasi vinto. Sarà la Carfagna, sarà la Carfagna. Questo mondo di morti che continua a morire. Beh, però facciano quello che vogliono, a parte che la Carfagna non esiste, non è mai esistita. Ma come però, non esiste? Dico, esiste comunque dentro Forza Italia la possibilità che vedrai alcuni, che dirà, dirà qualcuno no, dirà la Carfagna, appunto, dirà Sgarbi no, Sgarbi, ma come no. Fai tu a candidarti dappertutto? Sei già sindaco della meravigliosa Sutri, come fai? Uno può fare il sindaco di una città e l'assessore in 8.000 comuni. Beh, è folle. Perché però l'assessorato è nomina, mentre invece sono incompatibili gli eletti, non puoi essere eletto in due quindi luoghi. Quindi tu potresti fare l'assessore a Sutri, il sindaco e il parlamentare. Beh, bellissimo. Esattamente. Scusa, però io però amplierei, scusa Vittorio, per vincere ti do qualche consiglio. La prima cosa è questa, sanatoria delle multe, la vogliamo fare? La sanatoria delle multe. L'ho già detto ieri. Sanatoria, eliminazione dell'autovelox e tutto quello che è fatto apposta, non per punire un eventuale errore di qualcuno, ma per rubargli dei soldi. Cioè, tu non vai a lavorare per un mese perché ti ha portato via la patente per i punti. Nel culo si rimettono i punti. Come? Si cucciano il culo con i punti. Ma ha ridotto gli incidenti stradali, Vittorio. Ma poi quello se la devi ricomprare, no? Perché poi la patente punti, come tu sai bene, sì, certo, se sei capitato, te la ricompri. Sì. È solo questione di soldi. È solo di soldi. Le mascherine. Sì. 30 milioni di mascherine al giorno sono solo i soldi, questo capitalismo insopportabile che guidano le scelte, non la morale. Sì, no, ma su questa cosa della patente a punti l'altro giorno ho violato di 5 chilometri di 5 chilometri e mi hanno tolto 3 punti, 10 chilometri 3 punti. No, nel culo abbiamo preso gli punti, parto di lì, i punti del culo. Scusami un attimo, le multe, dunque grande sanatoria delle multe, per quante gli ultimi due anni sanatoria totale. Sanatoria, assolutamente. Vorrei farti l'assessore alla marchetta, cioè trovare gli sponsor che vengono a investire a Roma. Assessorato alla marchetta. No, beh, ci vuole così. Si deve chiamare assessore al sostegno della città. Esatto, bellissimo. Scusa, i musei gratis già l'hai detto. No, ho detto musei gratis e scuola alle 10 del mattino. Non come alle 10? Ah, scuola alle 10 del mattino. E i genitori come fanno? Ma devono andare a lavorare, i genitori devono portare alle 8, scusa. Sì, così svegliano i bambini che vanno lì incazzati come delle bici a vedere i professori addormentati che non fanno un cazzo. Ma è meglio andarci. perché tu, questo è un ricordo di quando tu eri ragazzo, perché tu quando eri ragazzo non ti svegliavi la mattina, questo è ha ragione Vittorio, questa cosa folle di volersi che la gente va alle 8 a scuola, ma che cazzo è? Non devono rompere il cazzo, la scuola deve essere bella, piacevole, esatto. Scusa, vietare i monopattini. No, monopattini non sono pensato, ma glieli mettiamo nel culo anche quelli. E secondo me delle zone a luci rosse, diciamo, dai, facciamola, zone a luci rosse ci vogliono, dai. Cioè, è un tema importante, non so se possa dipendere. No, importantissimo. Come no? Zone a luci rosse, proponiamolo, dai Vittorio. Zone a luci rosse, dai. Cioè, zone a luci rosse. Ecco, l'assessore a luci rosse che sei tu, esatto, questo lo farei. Zone a luci rosse. No, ma deve esserci l'appoggio per evitare le puttane per strada. Esatto, ma rompiamo questa legge sui bordelli. Cioè, facciamo farei così, però, per non sfruttare il nostro amico Parenzo, chiamerei aree miserabili. Ecco, bravo, bellissimo. Esatto. Aree di sosta per miserabili. Aree di sosta per miserabili. Consigli la visione libertaria e anche la tua restrizionistica, però si sappia che sono dei miserabili. Salvini vuole l'eliminazione dei campi rom, eh? I campi rom da eliminare subito, Salvini vuole, eh? Cioè... possiamo fare un grande campo rom per campi rom. Cioè, tu puoi fare delle aree intere dei paesi rom che sono in qualche modo isolati in un'area dove vivono loro. Invece di fare dei campi rom interferenti con la vita dei cittadini normali, cioè spostare li facciamo? A Pomezia, forse il Lazio è pieno di aree, spostare tutti i rom non da Roma in un paese solo nel Lazio, diciamo. Sì, in un paese, fare una città Romaland, bellissimo, sì. Romaland. Ti volevo chiedere un'altra cosa, è vero che ti farei fare il certificato medico per le mascherine? Io devi sapere, fin da quando fui condannato perché secondo loro ero assenteista, il mio medico mi ha avvisato tantissimi anni fa, un raffreddore costante. Sì. Io tutti i giorni, che poi ironicamente ho detto è allergia al matrimonio, io ogni mattina salutisco per ricordarmi che non mi devo sposare. E dunque? Io vivo, le mie respiratorie mie sono sempre occluse e la mascherina le occlude di più. Senti, un'altra cosa ti volevo dire, con riferimento alla tua ultima apparizione della D'Urso, dove hai parlato di sesso con quella signora là, vogliamo fare chiarezza una volta per tutte, perché c'è la modalità sessuale sgarbiana, io la conosco bene. Cioè, facciamo chiarezza definitiva. Innanzitutto, tu sei comunque di tua natura, sei una persona rapace, questo lo possiamo dire. Sì. Il mio metodo è identico a quello dei vecchi omosessuali, quelli che scopavano al cinema, facevano pompini, dei sessi. Sì, cioè, non era amore, era sesso senza amore, esatto, che esiste, questo che mi diversifica l'apparenza. Ed è, come dire, rapinoso. Allora cosa capita? Che con lei, è capitato anche recentemente con altre persone, io arrivo lì, vedo una che mi salta addosso con un'aria affettuosissima perché mi conosce, mi dice che è lei. Io la guardo con lui e poi la porto con me e facciamo un tratto di un quarto d'ora. Io a un certo punto, secondo me era così vicino a me, la prendo e la porto dentro la prima porta, che era quella del cesso, dove restiamo 18 minuti. Ma in quei 18 minuti che succede? Da quel momento io posso tacere, ma tace anche lei. Cioè siamo uno a uno, tu non puoi dire io non ho fatto, io ho fatto. Sì, certo, certo. La dinamica dei fatti è quella. Lei in un quarto d'ora, 18 minuti, ha stabilito con me un rapporto affettivo. Sì. Poteva essere fisico, psicologico. Sì, ma la fellazio, per esempio, c'è stata, è una delle tue cose. Questo non te lo voglio dire, ma però lei non può neanche negarla. Eravamo io e lei. Fondamentalmente, tu in questo modo rapace, un po' diciamo estemporaneo, non scopi mai. Diciamola chiaramente. Ma è irrilevante. Cioè, sì, ma non c'è mai penetrazione, non c'è nel 90%. No, dei... La mia teoria è che quello che importa in un rapporto con una donna è il punto di cedimento. Sì. Questo vuol dire che tu vai a una festa, ci sono. C'erano 200 persone, e trovi 4-5 disponibili, non puoi portare tutti a letto. No. Vai dietro un angolo, inserisci la falange del dito medio nell'organo sessuale di lei, quella è, come dire, è registrata. Sì. Perché vuol dire che lei ha dato la sua disponibilità a quello, hai capito? Non è che c'è bisogno di aver l'atto sessuale compiuto. Parlo di una forma, come dire, di seduzione che prevede il cedimento, il punto di cedimento Cioè il punto di cedimento è quando tu infili, riesci ad infilare la punta, almeno la punta del dito medio nella vagina, diciamo, di quella persona. Che lei sarebbe disponibile. Dopodiché, poi ho detto, per onore di verità, che siccome la ritenevo ormai fidanzata nei termini suddetti, le ho detto vieni a dormire da me. Lei mi ha detto di no perché doveva andare non so dove. Però quindi diciamo la verità, la modalità io la conosco, infatti questa modalità è difficile spiegarla, diciamo chez d'Urso, questa modalità. La modalità tua è questa qua, che la penetrazione è irrilevante. E diciamo la verità, non c'è quasi mai alla fine. Cioè non no, c'è... ma questo vuol dire poi avere dei rapporti, sai, con una donna un mese, tre giorni, cinque giorni. Nel momento, in quel momento... una cosa di queste sotto i 20 minuti, come ho detto, che è il limite in cui Sabrina non registra il fatto, è chiaro che stai lavorando, come dire, in maniera molto artigianale. Non registra il fatto. Certo, non registra il fatto. Cosa può dire non registra il fatto? È una cosa sotto i 20 minuti, però in quei 20 minuti puoi fare tanto. Sì, però il massimo che può succedere in quei 20 minuti qualcos'è. Ma dopo i 20 cosa succede? Quello che mi interessa. Può succedere di tutto, però non è importante quello che è successo. L'importante è che lei è stata con me in quel bagno 18 minuti, sì, in un'intesa che era palese e siamo usciti, come dire, fidanzati. Quella è la modalità sgarbiana nel 90% dei casi, diciamo, che è estemporanea. Cioè, questo bisogna capire della sessualità sgarbiana, che è una cosa, sì, quasi filosofica. Cioè, c'è la punta del dito che entra dentro, è già una conquista, è già un timbro. È ma già guarda, una... se tu vai a vedere il capitolo Carlo di Petrolio di Pasolini, sì, e se guardi in generale tutta l'attività degli omosessuali quando erano nascosti, quando erano docelati, sì, è tutta da accessi del cinema, da... Beh, però quelli spompinavano e scopavano, sì, nei cessi. Ma anche quello, appunto, ma puoi fare anche quello, non è che sia impedito, però è una cosa fatta in maniera totalmente animale, senza nessun rapporto altro che fisico. Sì, sì, sì, questa è la tua modalità preferita, diciamo. Questa è la tua io modalità... ho un comportamento eterosessuale ispirato alle modalità omosessuali. Che però, in quei minuti là Sabrina non registra questa cosa qua, non è registrata. Sotto i 20 minuti abbiamo la convenzione di Ginevra, per cui la convenzione di Sabrina. La convenzione di Sabrina è ottima. Ciao maestro, a presto! Ciao cari assessori, viva la vita! Viva la figa, viva Roma! Ciao. Viva la patria, ciao! La zanzara per Sgarbia, avanti. La zanzara. Giuseppe, ciao. Allora, io e la mia ragazza siamo entrambi laureati, addirittura lei ha due lauree, ma apparteniamo alla medio borghesia e noi pratichiamo spesso lo spitting. Onestamente, mi arrapa da morire. Parenzo, controlla un po' bene sabato la tua moglie cosa fa e dove va, perché secondo me quel pranzo o cena di lavoro, signor Sean, ma figuriamoci. Allora, Leonardo, provincia di Vicenza, avanti tutto, dai, Leonardo. Se mi tocca querelare anche chi lascia il messaggio, oh no, dalla manca. Leonardo, provincia di Vicenza, dimmi. Shalom, parenzo. Ancora questo ecco Leonardo, altro. Dai, dimmi, shalom, Leonardo, dai, forza, shalom. Tutti ebrei adesso. No, col culo degli altri, poi, Leonardo, dimmi, dai. Esatto. No, io sono sempre stato... Vabbè, dai, non ce ne frega niente, dai. La maggioranza silenziosa, ma in questo momento mi trovo molto in difficoltà. Perché questi criminali al governo mi stanno facendo girare i coglioni e ci vogliono rinchiudere in casa. Non vogliono ancora una volta. Casa, questo, l'obiettivo è quello di Parenzo, volevo chiedere al signor Parenzo se l'obiettivo è stato simpatico. L'obiettivo, amico caro, sei d'accordo? L'obiettivo, amico caro, è evitare il lockdown generalizzato. È esattamente questo, è esattamente il contrario. Queste piccole difficoltà alle quali andremo incontro vanno governate. Senti, e quindi... senti come parla, sembri Conte, sì, sembri Conte. Sembri il manutengolo di Conte. Non è nessun manutengolo. Pazzesco, cercate guarda, di capire, pazzesco, cari cittadini e cari cittadini. Rosario cari... dalla provincia di Ragusa, cari cittadini, dovete fare delle piccole, dei piccoli sacrifici per riabbracciarci tutti insieme in piazza. Vedi che sbagli. Prima si dice cittadine Rosario, e cari provincia cittadini. Di Ragusa, poi abbiamo un ospite che sta aspettando perché ci deve spiegare cosa avviene in certi locali, cosa avviene. Rosario, pronto, dimmi. Bruciani. Dimmi. Oh, ciao, io sono grande tifoso da te per la figa. Sì. Anche io non mi piace queste cose. Bisogna c'è di dirlo così. No, sei un grande tifoso di cosa? Scusa, della figa? Della figa. Sono un grande tifoso come te. Sì, ma io grande tifoso ma adesso. Ma cioè, contrario? Sono... Ma io non riesco a capire, non c'è nessuno che è di per sé contrario. Cioè, mi piace. E poi ci devo fare una domanda a Parenzo. Volevo concludere questa qua prima. Mi piace fare giochini con la mia compagna, che c'è una compagna che sono separato. Che giochini ti piace fare? Che giochini ti piace? Con il vibratore nella vagina e io ci prendo il lato B. Poi allora, aspetta, ma l'immagine di sto animale è involuto. Con la panna spray anche la panna è roba vecchia di anni, la panna è roba vecchia, però sempre male. Numero uno. Però scusami, mi pare di capire che il tuo giochino preferito sia vibratore nella vagina e tu nel lato B, giusto, con la tua compagna? Sì, che con tua moglie non facevi più un cazzo. Ma è un maiale per dirlo alla radio. Con la sua moglie lo facevo pure, però sì. Però poi che è successo? Non scopavi più e ti sei separato? No, poi ci ho provato con la compagna e prima non volevo, poi l'ho accettato. Sì, ma ho capito. Ma, lei è un maiale, ma perché racconta ste cose? Ma se lo tenga per sé, ma maiale. Le cose che si fanno normale. Scusami, Rosario, sei mai andato in un locale per scambisti? No, non mi piace, scambisti no, non mi piace. Guarda, mi piace farlo solo con la mia compagna queste cose. Vabbè, amico mio, sei arretrato, sei vecchio, morta, sta vero. Cosa è finita. Ciao, Rosario, ciao. Con noi Jessica Rizzo, un mito, una leggenda. Eccoci. Ciao a tutti. Ciao. Buonasera, come buonasera. State? Beh, amica mia, combattiamo un trionfo, direbbe Feltri. Ricordiamo il tuo locale, innanzitutto Roma Nord. Ricordiamo il nome del tuo grande locale per scambisti, eccetera. Il mondo di Atlantis. Il mondo di Atlantis. Caro Parenzo, dovresti avere una tessera ad honorem. No, non ci va, no, ma non sia mai, ma per carità. Scusami, Jessica, allora. Io ho la tessera della Feltrinelli. Guarda che quando dico non mai dire mai, poi dopo bisogna tirarli fuori con il carro attrezzi, perché non vogliono più andare fuori. Non si preoccupi che non mi vedrà mai. Stia serena, cara. Scusami, cara Jessica, dimmi la verità. Sì. C'è un po' meno gente che viene, diciamola tutta. Diciamo. C'è stata una diminuzione. In che percentuale, secondo te? Beh, certo, comunque la gente è più spaventata. Però diciamo che, anzi, da noi fortunatamente il locale è molto grande, quindi ha tante possibilità. E come state ovviando? Diciamo, avete avuto un calo? Avete avuto un calo? Allora, ho notato del calo, ma ho notato anche del cambiamento dello stile di fare sesso degli scambisti. Cioè? Adesso, adesso vogliono fare più che altro niente fusioni, niente baci, vanno direttamente al dunque, quindi pompini e pecorine, perché la pecorina, cosa diciamo, dice? C'è già una... Aspetta, no, interessante. No, ma molto diretta, Jessica, giustamente come deve essere. Allora, cioè, è interessante quello che avviene, perché questi locali tu li vorresti chiudere, David. Ma non voglio chiudere niente, Jessica, ma gestisce un locale, campa grazie, non solo, naturalmente, ma grazie a quello. Non è un locale, è un mezzo bordello. No, anche bordello, che piace il prostituto. Ma che c'è, il bordello ma è un'altra cosa. A tutti fa piacere fare queste cose. Se ci togliamo anche il sesso, ma mi dite che cosa c'è rimasto qua? Ma certo, niente. Jessica, hai ragione, ecco. Guarda, hai perfettamente ragione. Allora, però ci stai dicendo poi una cosa molto importante. Con le pareti dei buchi, con i buchi, perché noi abbiamo fatto le glory hall con i plexiglass, quindi attraverso i buchi. Sì. E quindi uno predilige fare, ecco, i pompini, come dicevo, oppure la pecorina, perché comunque si sta già a un metro di distanza e quindi non c'è il contagio bocca a bocca. Allora, dunque, quindi, due cose molto interessanti sono venute fuori. Il locale è comunque frequentato, questo certo, è importante. Meno di prima. Vabbè, perché giustamente la gente è più spaventata. Però i fedelissimi, è gente che sa che cosa fare, arrivano comunque. E la seconda cosa interessante è che cambia un po' lo stile, cioè dire, non ci sono effusioni slinguate, baci, poi magari ci saranno lo stesso, immagino, c'è qualcuno che se ne fotterà, immagino. Perché... Ma penso con il marito, con il proprio compagno. Sì, però con gli altri no, vengono per fare sesso, non vengono per fidanzarsi, capito? Però il bacio, sai, qualche volta il bacio è importante anche, anche nel sesso, lo so, come ma adesso con la mascherina è un po' dura, cioè, un po' dura ma stai dicendo che si mettono la mascherina nel tuo locale? Sì, ci sono persone, cioè quelli che come scopano no, nudi con la mascherina. Sì, con la mascherina. E poi anche per esempio quando facciamo il car sex nel parcheggio trasgressivo o nel drive-in, abbiamo anche il drive-in, quindi all'aperto, e anche lì attraverso i finestrini. Oppure ci sono persone che guardano le coppie che giocano, quindi si possono masturbare anche a distanza. Ma il drive-in potrebbe essere, scusami, il drive-in potrebbe essere anche, se dovessero mai chiudere il locale, potrebbe anche trasferirsi tutto in questo drive-in all'aperto, perché lì se uno scopa in macchina non è proibito scopare in macchina, cioè no. Certo, infatti noi abbiamo un ampio parcheggio adibito a car sex e a drive-in. Poi abbiamo anche la piscina con la vasca idromassaggio, per cui anche i centri estetici. Scusa, come si fa a mantenere la posizione inferiore, cioè varie posizioni inferiori a un metro, dici? Cioè, la pecorina un locale di 4.000 metri quadri. No, sto dicendo scopando, dico scopare. No, ma scopare per scopare. Allora, e si mettono la mascherina, si fanno la pecorina e con la mascherina. Questa è la cosa più, diciamo, più battuta in questo momento, diciamo, tu vedi soprattutto gente che scopa a pecorina, dici. A pecorina oppure nelle glory hall, nelle glory pareti, hall. Ecco, certo. Mascherina, glory hall, quanto hai speso per il plexiglass? Hai speso un sacco di soldi per fare i pareti? Sì, mi sono dovuta organizzare con il plexiglass, per forza, perché cioè, spiegaci la cosa, noi volevamo continuare a divertirci. Certo, pareti di plexiglass, un uomo sta da una parte, mette l'uccello dalla, mette dentro un buco, si avvicinano, si avvicina una coppia magari, no? Cioè, allora, la coppia sta nella parete, diciamo in una stanza. Questa stanza è coperta da plexiglass trasparente, quindi può vedere, si possono vedere entrambi, solo che essendoci il plexiglass è come se tu avessi una mascherina. E allora poi ci sono dei buchi e il singolo infila nel buco e quindi la coppia dall'altra parte interagisce con il singolo. Capito Parenzo com'è la storia? Ho capito che è una grande porcheria. No, non è una grande porcheria, è la vita. Mi mette una tristezza infinita questa roba. È uno dei tanti modi di divertirsi e lo fanno, cercano di farlo con sicurezza. Poi adesso, come quelli che per divertirsi si devono ubriacare per forza, come quelli, insomma, lo trovo. Ma no, ma qui non c'è bisogno di ubriacarsi, anzi, qui bisogna starci con la testa, perché poi dopo, se no, il pisello non funziona se ti ubriachi troppo. Ma che scherzi, allora, al contrario. Trovo tutto molto triste. Ma anche molto triste. No, ma che triste, qui vogliamo divertirci, abbiamo voglia di vivere, soprattutto in questo periodo. Scusa, altre molto posizioni, negativo. Jessica, altre posizioni che si fanno nel tuo locale, diciamo, oltre alla pecorina, diciamo, come si fa a mantenere comunque una distanza? È impossibile evitare la mucchiata? Nella mucchiata è impossibile mantenere una distanza in ogni caso. Non penso che l'unica cosa che si fanno sono glory hole e pecorina distante, che poi tra troppo distante non c'è, c'è comunque un contatto. Cioè, beh, la donna... però ci sono queste pareti, no? Con queste pareti si può fare anche a tu per tu. E no? Se tu vedi due che scopano normalmente senza mascherina, che fai? Non intervieni? Sarà successo? No, certo, devono molte mettere la mascherina. Cioè, ecco. L'uso, anche la temperatura viene misurata. Un po' tutto quello che succede nella vita quotidiana. Ma come hai registrato sto locale? Non è che uno può aprire un locale per far porcheria, secondo me. Come hai registrato sto locale? Un'associazione, un club. Associazione, Certo. Quindi uno come fa un locale per scambisti in cui ci sono questi qua che fanno sesso, tutto normale, certo. Ma è pieno in tutta Italia, David, è pieno in tutta Italia. Mica che ti sei messo a fare Adinolfi, ti sei messo a fare Adinolfi che vuole proibire queste cose. Ma non voglio proibire niente, per carità, mi fa un po' tristezza che ci sia questa ma quale tristezza? Vita, gioia e divertimento. Io penso che la tristezza sta nelle persone che invece non possono divertirsi, devono stare a casa, ma non possono fare feste. Mi diverto in altro modo. Sei preoccupata un po' per il fatto che qualcuno magari prima o poi dice vabbè basta, perché comunque le distanze non possono essere garantite, dentro c'è comunque un ammucchiamento di persone, qualcuno potrebbe pensare di chiudere questo tipo di locali o altri ancora, su questo non c'è dubbio. Ma l'ammucchiamento delle persone uno lo evita, perché per esempio la sala coppie uno non la apre, perché altrimenti lì ci sarebbero tante ammucchiate, quindi diciamo che sono più aperte queste stanze con le pareti che fanno il glory hall, il glory hall, caro David, il glory hall, messi dentro l'uccello e dall'altra parte donna, ma anche uomo si può divertire con l'uccello di un'altra persona, certo, no? Ma questo è normale. Anche coppie bisex, per forza. Va bene, questo è normale, continuate a dire che è normale. Vedi anche mariti che succhiano l'uccello di altri? Sì, come no, pieno. Stanno sempre di più aumentando gli uomini bisex, anche le donne, sì, va bene, evviva, dai, un bel quadro mi pare. Ciao, dunque, non ho capito, quello per esempio, leccare la figa, si può o non si può? Questo è interessante come cosa. L'essenziale dicono che è più che altro con la vicinanza bocca a bocca. Non con c'è nel DPCM. Dunque succede che tu... Ecco, vedremo domani se nel DPCM si potrà leccare la figa non c'è. O meno. Però scusa, tu tiri giù la mascherina e ti metti a leccare la figa. Secondo te è possibile farlo? Tecnicamente sì, però poi devi tirare giù la mascherina. Qui problemi. Sì, bisognerebbe fare un buco sulla mascherina allora. Beh, potrebbe essere un'idea. Un abbraccio, ciao. Ciao Jessica, presto, italiani! Italiani! Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, alle 8. Lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. Martina e oltre 500.000 di aziende e professionisti usano la fatturazione elettronica di Aruba perché è semplice, è completa e conveniente da una nuova intuitiva app. Fatturazione elettronica di Aruba. Chi l'ha scelta, non la lascia più. Vai su aruba.it.